avanti. Sempre io. Ciao Giulio, buonasera, ben risentito. E allora, hai messo la Energy Image? K, l'ho trovata, è presa al volo. Ma dove l'ha presa, Sassari? Da un amico. Ah, beh, allora sì, ho capito. No, pensavo che l'avevate qualche divulto di Sassari. No, no, chi ne ha? Non ha più nessuno di queste cose ormai qua. Oh, yeah, per carità, messi male siamo. Messi male siamo, sì, vabbè, che cosa ci vuoi fare? D'altronde, se non, no. Se la gente non compra, anche il commerciante ha le sue ragioni, no? Per non avere più niente. Ormai non c'è più nessuno. Vabbè. Quello sì, però all'occorrenza, vedi, almeno una di scorta, qualcuna, sempre prima o poi uno già la chiede. Beh, certo, quello già è vero. E l'altra, allora l'hai tolta, l'antenna che avevi prima, l'hai tolta, la rincoglio. Eia, la rincoglionita, l'ho tolta. Ti ho mandato anche la foto, vista l'hai giù. La foto me l'hai mandata, non l'ho guardata. Sì, ti ha fatto la foto, dove come è posizionata. Oh, eppure non c'è niente, aspetta che guardo, non c'è niente qua. Dove, al numero dove mi hai chiamato poco fa, che ti stavo chiamando anch'io prima. No, lì non c'è il smartphone, non c'è il smartphone, vabbè, aspetta, guardo nel tablet, dai, guardo nel tablet, lì è il tablet. Ah, ok, sotto la manda l'altro numero, non ci capisco più niente, c'è due numeri, ma non so quale usi di solito. Uso un fantono, sarebbe lo smartphone, uso un altro numero, non quello. Anche per telefonare, quello altro lo tengo solo perché ho tanti numeri, però non l'avrei nemmeno tenuto. Però quel numero che hai fatto dovrebbe arrivare nel tablet, c'è aspetto. Andare. Va bene, controlla. No, c'è solo il soppalco qua, è fatta. Solo il soppalco c'è. Cosa c'è? Ah, sì. Dopo te la rimando giù, che ce l'ho anch'io. Giù. Come scendo te la rimando? Ok. Mandalo nell'altro numero, mandalo. In quello che è, il numero è 388 all'inizio. Mandalo in quello. KK, andale. Dunque qua sta girando tutto bene, sì, dalle tue parti. Cosa hai detto? Ho detto, se sta andando tutto bene dalle tue parti. Sì, che sta andando bene. Vediamo un po' di nuovo segnale. Mette da sabotante. Guarda, 1, 2, 3, 4 e 5. 9, 10 pieno. Adesso 9, 10 pieno pieno. Ma cosa stai usando? Anche qualche segnaletto? Adesso sì, c'è la scarpetta. Per quello che è aumentato, perché poc'anzi non era 9.10, era 9.8. Adesso è 9.10 pieno. Andare, sto facendo una prova. Una prova. Che prima c'avevo il K, già lo sai. E sto facendo la prova, vabbè che questo sono, quanto sanno, neanche 100 watt. Ah, ho capito. Prima K stavi usando? Anni fa, ti ricordi che ce l'avevo? Prima sì, anni fa sì, quando si dà conto. Voglio dire, ma adesso c'è il 48, adesso stai usando? Adesso c'è il 48. Gli ultimi due superstiti che mi sono rimasti. Ho capito, sì. Vabbè, già ti va bene, dai. Sono più 10, adesso stai arrivando, per cui. Va bene. Perché ti è prestato subito, perché se no ti stava superando Gianni Superfetta. Allora, lui stava superando, giù mai, cavolo, stava migliorando lui, era sempre lì fermo al palo. Appunto, lui aveva migliorato, 9.5 mi sembra che arriva adesso, non mi ricordo, sì, 9.5 mi sembra. Vabbè, adesso sei tu più forte di nuovo, guarda. Va bene, poi quando mi attrezzo veramente vediamo cosa succede. Peccato non poteva mettere sul tetto l'antenna, sarebbe stata l'ideale, ma comunque, va bene lo stesso, dai. La Helios quante radiali ha? 3 ha tipo elica. Sì, ma già me la ricordo. Già me la ricordo, adesso che me l'hai detto. Sì. No, quelle vanno bene, anche quelle vanno bene. Con 70 euro uno si apprezza. Io ho pagato la metà della metà di quel prezzo che hai detto tu. Certo, allora hai fatto un affare hai fatto allora. Io l'ho preso. va bene, meglio così, dai. Ecco, devo sapere quanti fatti sta parlando per Sassuolo, però non mi ricordo più il collegamento, ho detto poco fa Pomponio, poi mi sono già dimenticato tutto. vabbè, fai le muglia, dai, già lo troverai, oppure prova in tutti i muli. Ma devo scrivere giù, perché per lui è semplice, dice fai così, entra, esce, entra e vai. Poi verrà a fare veramente più. Vabbè, ma una volta che hai imparato, poi mi non lo dimentichi più. Quando lo ripete di nuovo, come se lo fa, poi lo stai via a giocarci tu sopra. Eia, vabbè. Giusto per curiosità, se attacco apparecchio e rosmetro stazionari sono 1-1, più che bene. Non c'è di che, non mi posso lamentare. Poi devo sistemare sempre lo spezzone. L'altra calata di filo devo sistemare. Così faccio tutto 213 e ciccia. Meglio. Così almeno sì, con un capo serio, ce lo credo. Io ho addirittura la cabina, si può immaginare, ancora più serio del 213. K e Roggero, ma se l'hai preso a bobina la K1000 oppure l'hai preso al metro? Al metro, allora, 25 metri, 62 e 500, 72,50, l'avevo fatto, a 2,50 il metro, a Fusaro. Quanto me ne serve a me occhi a croce? Per fare la calata. Sì. Va bene. Aspettate che non entri qualcun altro. Eugenio, è presto. Già è entrato. Ancora è presto. Infatti, certo, sono appena le 5:20. Ormai sono tutti abituati presso le 6, si può immaginare. Perché lo sanno che non entra mai nessuno presto. Il mio si difficile, è acceso la mattina, lo spengo la notte. Ho preso le vecchie abitudini. Così è qua. Vabbè, quando si è a casa si può anche fare, non è un problema. Certo, quando io la sera la accendo di solito verso le 4:30 e rimane fino alle 8, sempre acceso, anche 8:30 la sera, e poi spengo e basta. Anche se non ci parlo, magari però è acceso. Gava. Andare, aspetta che qua lo spengo, questa cosa sta già iniziando a scaldare troppo, aspeggio. Infatti, staccalo, così almeno non rischi niente. Tra un po' ci cucini l'uovo sopra, non posso mettere la mano sopra. Quanto sta scaldando, porca miseria. Da qua sta scalda, io credo, cos'è? 4-7, come si chiama, no? 7-4-7? Atmosfet. Atmosfet, sì. Ce l'ho buttato anch'io, l'avevo buttato il fulmine. L'avevo buttato. Poi non è più. O meglio, ce l'ho quando funziona. Il discorso è così. Ma ce l'ho perché magari mi posso dire l'interruttore, mi posso dire, il PL del pannello, no? Quello che si è attaccato al pannello. Sai, sempre per costruire l'antenna, quello serve. Quando devo costruire l'antenna, il PL... quello sì, ma anche avevo anni fa questo, tanti anni fa, però poi non mi piaceva perché se andavo in saturazione, vabbè questo è diverso, cioè già altri tipi di finali, però quelli c'è una saturazione, bisogna abbassare il watt alla radio e non stava spingendo, voleva spingere, poi alla fine si è pure bruciato e ce l'ho buttato. Perché se dai troppi watt, allora è per quello che non è saturazione, ci vogliono proprio far uscire bene bene lì, al massimo 5 watt per là, proprio far uscire veramente bene, esatto. Intanto poi ce ne dà 70-80 e ce ne dà di vignaretto e va bene così. Buonasera. E lui, vabbè, Gianni. Ciao ragazzi, ciao Giulio, ciao Daniele. Cazzo qua, sono incassato nero, mi si è impallato il telefono, cazzo. Non riesco a farlo ripartire, cazzo. Ti stavo chiamando, infatti, due squille si chiudeva. Ciao Giulio, buonasera anche a te. Ciao Gianni. Senti un martellino, prendi, dai due colpettini con martello al telefono, vedrai che se ne prende. Almeno si sveglia. Già lo sai che si è superato adesso di segnare Daniele, già lo sai? No, cosa è successo? Guarda un po' come ti sta arrivando adesso già. 1, 2, 3, 4 e 5. Aspetta che prendo gli occhiali. Prova. E io quanto ti arrivo, Daniele? 9 pieno 6, Giulio. 9, 9 e 5, dai. Ok. Andava. E se faccio così, aspetta, guarda di nuovo lo switch al piso. Vai. Prova. Guarda che ho fatto due segnali. Già ho visto, 6, 9, 5, 6, portante bianca. Il massimo? K, se poi vai a modulare, superi pure 9, 5, dai. Ok. Sì, ma voglio dire, il massimo che ti ho mandato è 9, 9, 5. Ecco, così com'è, così sono poche parti. 9 e 5 sei giù. Allora poco fa te ne ho mandato di più, ma non mi hai seguito, insomma, ecco. No, ti ho seguito, è che lo smitter questo è a varo giù, capito? Io sono quel 48, deve essere segnale fortissimo per vedere gli spostamenti. Ah già, è vero, 48, già, sì, è vero, è vero. È vero. va bene. Già mi basta così a me. Guarda, adesso sei a pelo di 9, per dire. Prima era molto dopo il 9. Sei lì, dai, almeno da questo smitter. Poi bisogna avere qualche smitter più serio che ti dia il segnale proprio giusto. Lo so. Vabbè, comunque non fa niente. Andavi, non vedo problemi. Dai, Gianni, dateci il colpo di martello a questo telefonino. Guarda, non me ne parlare, ragazzi. Ascolta, allora, praticamente adesso Daniele arrivi come Giulio, 9:20 abbondante qua. Guarda, adesso si arriva ancora come Giulio, 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso sei quasi fondo scala. Hai visto? Hai visto quel modello che Gianni, modello è diventato. Tirrioso sta diventando, dai. Bene meda. Sta prendendo le sembianze di un tempo. Mezzurgai, come si dice, mezzurgai. Finalmente mi hanno dato quella storia, già piazzata e tutto, è lì. Sei riuscito a concludere quell'affare? K, è lì, piazzata, la sto già usando. Quindi stai uscendo con la nuova rifatta? K. Bene, Meda, sono contento per te. Se non si scioglie tutto adesso, già va bene. Bene Meda, mi fa piacere. Anda bene, Meda. Vai, riprendete 5 minuti che mi assente, vado a fare l'aerosol. Ok, avanti e giù. Ok, ho detto Daniele, ma nuova è o usata è l'antenna? No, è usata, Giulio, è usata. Sicuramente lo conoscerai pure. Ma come me l'ha detto, io dammi, la sto portando via. E fa la proposta, è stata la proposta accettata, io via. E chi è costui? Sì, c'è il peccato e non il peccatore. Allora, cosa mi sa che mi dici se lo conosco, se lo conosco. Cosa mi so, se lo conosco o no. Va bene, va bene. Ciao Gianni. Perché c'hai pure parlato in radio, Giulio. Se sai chi abita qua in zona, si fa un giro di calcoli e risale a chi è. Franco, là. No. È zona. È zona. Zona mia. È zona a te, Gianni. Mia, mia, Giulio, zona mia. Ah, è zona tua. Ah, è zona tua, chi può essere? Pompugno. No, davvero, nemmeno Pompugno. Che Pupugno è tutta la parte, non è la tua. Antonio, quello che c'era Antonio prima, che c'era la prima. Cappa, visto. Ma come che sei fatto quello? Lo sta più entrando giù. Non lo so perché, però non sta facendo più attività. Eppure è diventato pure l'animatore e tutto. C'è solamente l'antenna lì piazzata e basta. Ma il motore è diventato? Se va preso il patentino anche lui. Oh, lo sapevo. Se prende il patentino poi non è già più nemmeno concepito, proprio è possibile. Vabbè, avevo saputo che era una questione familiare. Cava, dai, riprendete che aveva 105 minuti, fumo una sigaretta al volo e ritorno, dai. Va bene. Questo telefonino, Gianni. Infatti faccio qualche altro passaggio e poi cerco di sistemarlo, se no non riesco a combinare niente. Praticamente insomma devo riuscire a farli partire sicuramente, insomma avrò perso tutti i dati, quindi adesso sicuramente magari riesco a recuperare i numeri di telefono che avevo messo, che avevo salvato da un'altra parte, però per il resto infatti insomma fastidiosa là. Ho capito. Vabbè, prova, ce l'ha, ritenta, sarai più fortunato, riprova, ci vai, ce la lascio fare. Vabbè, adesso aspettiamo che rientri Daniele, vediamo cosa succede. Poco fa mentre stava parlando qualcuno l'ha sovramodulato, non so chi sia. Ma a me ha sovramodulato? No, a Daniele. Ah no, ci siamo accavallati nel gruppo, ero io, ci siamo accavallati. Kappa. Ero che inavvertitamente mi sono accavallato a Daniele, per cui era quello, non era nessuno. Ormai sono tutti facendosi una pennichella a quest'ora. Vabbè, sono ancora, non sono ancora le 5, quindi magari sono indaffarati a fare altro. Ancora non ho digerito bene dal pranzo, per cui chi è che ci sta facendo più sentire è Marco, prima ragazzi c'era sempre, adesso non ci sta facendo più sentire anche lui. Mandroni è diventato. Magari ha trovato, insomma, sicuramente sta facendo qualcos'altro che reputa più interessante. Beh, che sia più interessante quello che sta facendo è penso che sia una questione di famiglia. Penso questo, dai. Va bene così allora. Sì, sono contento che abbia piazzato la nuova bambina e niente, insomma, piano piano. Ok, va bene, là. Sì, no, già va bene comunque, l'antenna già va bene, era di un vecchio CD che ha bollato a lungo e poi si è fatto con la buglia. Sì, giù, vabbè, insomma. E cosa vuoi che ti dica? aspetta che qua mi sto, allora, insomma ci sono un po' di spunte da fare, forse sono riuscito a farlo ripartire, boh, vediamo un po'. Prova. Siccome non è un Android, è un telefono, cioè è un Windows Phone, usa praticamente la piattaforma Windows. Qualche anno fa Windows aveva comprato la Nokia e poi praticamente l'anno scorso il matrimonio è saltato, quindi la Microsoft ha mollato la Nokia, adesso la Nokia ha ripreso a fare i telefoni per conto suo come era una volta. E quindi praticamente i vecchi telefoni marchiati Microsoft praticamente non ricevono più gli aggiornamenti, e quindi insomma questa cosa mi ha un po' incasinato. Ok, ho capito, sì. Ho capito. Ma io ne ho di telefonini, ne ho 8, mi sembra, 8 o 9, una cosa del genere. Di volta in volta, quando li cambio, avevo iniziato prima con la cabina telefonica, quello di tantissimi anni fa, di oltre 15 anni fa, era grandissimo. E ce l'ho sempre, ma devo dire che funziona, che è benissimo. Poi ne ho altri, anche perché ogni tanto quando devo cambiare la figlia, e quello che è vecchio lo passa a me. Adesso ne ho 8 numeri, forse anche 10 in tutto. Caspita, più o meno lo stesso numero di baracchini che c'hai, così è? Più o meno, sì, all'incirca lo stesso numero. E tutti completi anche gli alimentatori, e le solite cuffie che danno in dotazione, tutto completo. Infatti ogni tanto mi tolgo fuori il ricarico per non rovinare le batterie. Ho capito, sì, li fai. Sì, se li metti da parte la batteria va staccata, perché sennò poi si incasina la batteria e insomma. Meglio staccare la batteria quando non usi più il telefono. Ma anche se la stacchi, se non la ricarichi, prima o poi vai in avaria. Infatti, proprio poco fa sono ritornato a quello mio giornaliero, non allo smartphone, quello che ho sempre, all'altro, perché avevo messo la scheda di un telefonino di mamma. E mamma è deceduta un anno e mezzo fa, dai. E dunque, adesso l'ho visto, l'avevo nel cassetto, l'ho visto, ho preso, l'ho ricaricato e ci ho messo la scheda mia. E l'ho usato ieri e tutto oggi, l'ho usato. Per cui, però adesso ho di nuovo rimesso la scheda nel mio telefonino, quello che ho sempre, solitamente. Ho capito. Insomma, dai, gli fai fare la staffetta, dai. Ogni tanto, sì. Solo che questo di mamma il quadrante è libero praticamente. Sì, c'è il blocco della tastiera, semplicemente quello che uso solitamente è col puntellino. Quello perché mi metto le chiavi, tasche, sai, si mette con l'altro, siccome è lungo nuovo, il più lungo. Dopo da negozio praticamente, perché mamma, guardate, avevano fatto 5 anni, si può immaginare che cosa potevo utilizzarlo. E quando è deceduta, poi alla fine le mie fratelle l'hanno dato a me, ti entro tu questo, perché ognuno di noi ha preso un ricordo di mamma, questo ti entro tu, capito, mi hanno dato questo. Beh, hai fatto bene, dai, meglio così, è già una cosa carina. Ogni tanto, cioè, già questi telefoni sono una rottura di balle, insomma, mille impostazioni, poi ne giamba ne uno ogni mese. Vabbè, io non sono di quelli che ci sta appresso a certe cose, però insomma, già avere questi problemi qua mi gira un po' le scatole, quindi sto cercando di trovare una soluzione, vediamo un po'. Stavo guardando su internet che forse c'è la possibilità di fare qualche accrocchio, insomma, però è per gente esperta che ci sta smanettare, insomma, per cercare di forzare il telefonino, per cercare di metterci il sistema Android, capito? Però non è una cosa semplice. Ho capito, sì. Infatti ti avevo mandato io un video su WhatsApp, ma tu WhatsApp non l'hai mai aperto, forse non ce l'hai col telefonino lì, e così qualche, così un piccolo saggio della mia stazione vicina e basta, ci avevo mandato, ma una cosettina da niente, dai, che avevo qui davanti, che ho qui davanti, poi le altre sono tutte conservate, no? Ho capito. Vabbè, io per adesso, siccome con WhatsApp ho problemi, per ovviare al problema, ho visto che Daniele c'ha praticamente un programma uguale a WhatsApp, si chiama Telegram. Praticamente riesco a messaggiare con Daniele attraverso il computer, quindi anche senza il telefono. Il vantaggio che c'ha questo Telegram è che lo puoi usare sul computer anche se il telefono è spento, mentre con WhatsApp praticamente questa cosa non è possibile. Ci sono i due programmini, se vai su internet ti puoi scaricare sia Telegram per PC e WhatsApp per PC, però il vantaggio di Telegram, che è praticamente uguale identico a WhatsApp, ti dà la possibilità di messaggiare col computer anche se hai il telefonino spento, mentre invece con WhatsApp praticamente devi avere il computer e il telefono connessi contemporaneamente, se no praticamente WhatsApp sul PC non lo puoi usare, capito? E quindi quando devo messaggiare con Franco e con Daniele uso Telegram dal computer, perché col telefonino c'ho problemi. Ok, ho capito, sì. Anche con Marco allora puoi messaggiare, perché anche Marco so che usa il computer come WhatsApp, capito? Anche lui usa quel sistema lì, perlomeno prima, adesso se poi ha un altro telefonino, questo non lo so. Però prima era così anche lui, prima lui seguiva, il messaggio lo seguiva sul computer, quando gli mandavano un messaggio. Ma suppongo che sia ancora così, non lo so. Sì, sì, ti ripeto, praticamente Telegram è uguale a WhatsApp. Chiaramente le grafiche sono leggermente diverse, non è così tra virgolette pesante come WhatsApp, ed è facilissimo da scaricare, si va sulle applicazioni classiche che ci sono sullo smartphone. Telegram praticamente è un pallino blu con una freccia bianca, con la scritta Telegram, ed è facilissimo da usare, è anche più leggero di WhatsApp. Insomma, c'ha alcuni vantaggi che WhatsApp non ha, capito? Quindi facilissimo da installare, facile da usare, insomma. Ti ripeto, io adesso in questo momento sono costretto a usarlo sul PC, perché per i problemi che ti ho detto poco fa. Ottime! Ok, Daniele. Sì, è interfacciata praticamente con PC, interfacciata con telefonino, o viceversa, ho capito. No, io addirittura ce l'avevo interfacciato come telecomando, la televisione, cambiavo i canali dal telefonino, ma poi per non avere troppe app aperte dal telefonino, perché si consuma la memoria, e allora ho disinstallato. Facevo così, siccome c'era un periodo che il telecomando era caduto per terra e si era rotto. E dunque allora con il telefonino cambiavo il canale. Ho capito, insomma, Giulio multimediale. Va bene, dai, avanti Daniele. KK, già sono qua, che sta prendendo un po' di caffeina. E va bene, non è entrato nessun altro? No, non è entrato nessuno, sono tutti quanti in fase di digestione. Oh Giulia, va bene, anche questa mi sa, bisogna portare al dottore, questa radio tra un po'. scusa Daniele, io sto cercando di far ripartire il telefono, quindi sono un attimino distratto. Proseguite voi un attimino, poi appena riesco ad accenderlo già rientro, ok? Ehi Gianni, va bene, fai tranquillo, non c'è problema. Ok, anche io tra un po' devo fare una commissione lo stesso, e quindi sono costretto a chiudere, ma guarda, c'ho un po' di tempo. Dieci chilometri di farlo hai messo, Daniele. Cosa, Giulio? 10 chilometri di farlo hai messo. Ma per carità, hai visto l'albero della cuccagna che c'ho? È bello, sì. Sì, ma da quando ce l'aveva anche Natalino, se aveva fatto una cosa del genere, messa così. Però Natalino l'ha attaccata addirittura alla facciata, attaccata, proprio fissata alla facciata della casa dove abita, con la stradina stretta, dai, e senza uscita, senza via d'uscita. Eia, troia. Vabbè, no, non tocchiamo questo discorso, perché sennò mi viene nuovo l'incazzo, perché bastava che me la facesse mettere al piano di sopra, che tra l'altro è il mio, ma apro e chiudo la parentesi, e avrei messo tre spezzoni di quel palo che vedi in foto, e me ne sarei uscito. Ok, adesso ti mando un qualcosa su WhatsApp, guarda, che ti fa solo ridere. Eccomi, Daniele, togliami una curiosità, quante altre la Ringo 4 e qualcosa mi sa, perché le misure ufficiali che ci sono nei vari nelle varie caratteristiche che tu trovi anche su internet non corrispondono, almeno su quella che ho io non mi corrispondono, perché mi manca la bellezza di 30 cm o 40 cm per arrivare a quella misura, cioè quasi mezzo filo ci manca, capito? Io l'ho fatta perché sono riuscito a farla, perché c'aveva i vecchi segni di come era usata, i nastri, i segni del nastro e tutte cose, e quindi la parte si è ossidata, che l'ha scoperto, la parte coperta, vabbè, è rimasta quasi intatta, e quindi in base a quello ho preso la misura per recuperare la taratura giusta, diciamo. Ho capito, quindi siamo intorno ai 4 metri, così è? Ah già, una cosa del genere, non penso che arrivi a 5. Bene meda. È bella massiccia, per essere una mezz'onda è bella massiccia come antenna, cioè massiccia alta, dai, perché è leggera. Adesso mi guarda il messaggio, Giulio, dai, riprendete 5 secondi e ci andiamo a prendere il telefono. Guarda, 3 se ne ho mandato, mi sono 3. Guarda di tutti e 3. Soprattutto qua. Questi sono due passi, ma poi c'è un'altra fotografia di un oggetto che si usava tantissimi anni fa. Vai Gianni. Eia. Sì, sono ancora distratto da questa cosa qua, quindi insomma non riesco ad andare avanti, forse è meglio che mi dedichi un po' al telefono se voglio insomma ripristinare la cosa, e quindi voglio cercare di farlo, di sistemarlo, di farlo ripartire, quindi abbiate pazienza, dai, vi chiedo pazienza, rimango in quei rigs e cerco di insomma di sistemarmi il telefono, ok giù? Sì, fai pure Gianni, non c'è problema, figurati. No, fai adesso, così almeno, ma ci sa mai qualcuno ti può chiamare se non è attivo il telefonino, come fai? No, mettila a posto, dai, dopo già c'è tempo per il baracchino. E beh, Daniele, mi sai quel messaggio? E chi me? È vero, visto che quando ci vuole poco diventare nigeriano, visto come ha fatto questo. Oh yawa! Sto ancora ridendo giù. Incredibile. E Michael Jackson, grazie, ci ha impiegato anni per diventare bianco. E lui, hai visto, in 3 secondi è diventato nigeriano. Anzi, più nero anche. Oi. Cioè, se sennò che della motosega, mamma mia santa, ragazzi. Qui non li ha mai sono venuti al posto suo. Ma adesso dimmi tu se è un pazzo per mettere la motosega così, con quella posizione. Non sai che la motosega, però mette moto è già parte. Cosa voleva? Spaccarsi in due da solo. C'è su, guarda il bagnellino voleva fare. Che sarò, che sarò di mente quello, blu, blu. E quel contenitore è importante, l'hai visto? Sì. Quello era il serbatoio, quello che c'è sotto era il serbatoio della cacca. Tutte le maniere le inventano. Senta, sì, una volta ho ricevuto un messaggio, ho ricevuto, presente ce l'hai, come si chiama, aspetta, biscottate mi sembra che si chiamano, però erano molto grandi, ma grande all'incirca come un piatto, la grandezza di un piatto, così, erano di quelli morbidi, però, non proprio di quelli secchi, no, di quelli morbidi, che si possono anche utilizzare per fare cose, come si dice, i tramezzini. Vabbè, comunque, questo qui la cosa l'ha fatta, ha preso la fetta di queste fette biscottate, l'ha messa per terra, lui era completamente nudo, questo disgraziato, si è messo sopra e ci ha fatto la cacca sopra la fetta biscottata. Poi si è alzato, ha preso un'altra fetta biscottata, l'ha messa sopra, tipo 16, capito? Così ha fatto. Se l'ha mai nel tramezzino, se l'ha mangiato, ha dato un morso e se l'ha mangiato con tutta la sua cacca. Che vai a un pistone di fare che è un uomo maiale. Oh, che schifo, cazzo. Cos'è l'altro mondo? Non mi ricordo che forse me l'avevo mandato Graziano. Anche questi me l'ha mandato Graziano. Questi video qua. E sempre lui, già ne trovo poco. Graziano mi riempie sempre il telefonino di questi. Di queste cose qua, di questi video. Incredibile. Oh. Se no quell'altro che avevamo fatto lo scherzo, questo gruppo di tre amici erano, doveva indovinare che cioccolato era, occhi bendati, all'ultimo gli ha dato un pezzo di cacca secco e se l'ha mangiato. Ma questo se l'ha fatto facendo e mangiando, è incredibile, ma vai da rimagliare, ma come si fa uno ad arrivare a fare queste cose? Puccicca, che schifo. Va bene, allora mi passo la voglia di mangiare la Nutella. Infatti è tipo Nutella, ce la beva, poi è bello pieno, poi mi ha fatto, sai quanto l'ha fatto, quanto ne fa un cavallo. Se ti sto dicendo, questo pezzo di biscottate era grande quanto un piatto, ma quadrata, l'ha messa per terra, e sempre era nudo, completamente nudo. Si è girato e l'ha fatta sopra la fetta biscottata, poi ne ha preso un'altra e l'ha messa così, è tipo panino in bottiglia. Che paglia, una bomba di paglia. Cessuia, Gianni, vabbè, risolto questo telefono. Ci devo smanettare, ragazzi, non posso stare al baracchino, perché sennò se sto al baracchino non mi metto a posto il telefono, quindi sto cercando di farlo ripartire. Va bene, fai pure. Ritenta che sarai più fortunato, dai, farlo con calma e con grande applicazione, così almeno te lo sistemi di nuovo. E i problemi sono, ogni tanto ce n'è uno, Daniele, di problemino. Vita è così, purtroppo. Finché sono quel genere di problemi non è così tanto brutta la vita. Il problema è quando si tratta di salute, mamma mia, allora sì, povera gente. Ieri mi stava parlando Antonio, mi stava parlando, ragazzi, del padre che sta male. Oh, il padre di Zio. E poi dispiace anche, soprattutto con le persone che conosci, che hai conosciuto, sapere certe cose, certe notizie, dispiace veramente. Purtroppo la vita è anche questa, ego da vivo e va. Così, io ce ne vedo tutti i giorni giù. Che alti, che bassi, che peggio, che meno peggio. Oh, ya, lasciamo perdere. Mi ricordo. Il padre di Antonio è il fratello, se ricordo bene, di Vela 3, se ricordo bene, se non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra di sì. Mi sembra di sì, se ricordi Vela 3. Forse non l'ho mai conosciuto io giù. Ah, non l'hai conosciuto tu. È un ex TB che lavorava al Policlinico in Via Italia, lui era l'ingresso, era. Una specie di infermiere, però era lì all'ingresso, dai, quello che accettava le persone, diciamo, dai. Troppi anni, ero troppo piccolo, oppure non c'aveva ancora la radio. Probabilmente sì, sto parlando di tantissimi anni fa, parecchi anni fa, infatti forse non li racconto, forse non eri ancora nato, sto parlando degli anni 70, una cosa così, forse tu non eri ancora nato, sicuramente non eri nato. No, negativo, se erano i 70, io sono nato 10 anni dopo. Sicura. Tu sei del 60, sì, in che anno sei nato esattamente? Dall'80. Ah, nell'80, tu sei ancora molto giovane. Beato te, grave, dai, comunque. Se sei, grosso modo, 20, 30, 40 anni più o meno, quasi 40 anni. E allora, ad agosto li faccio gli anni. Aspetta, io li faccio questo mese, il 29, il giorno 29 è il mio compleanno, questo mese. Va bene, ma interessante essere sempre sani, pur per il resto, chi se ne frega, andiamo avanti. Sì, è con tardi soprattutto. Appunto quello, con tardi. Solo che i miei sono in discesa, ragazzi. Mamma mia. Va bene. È quello che vogliamo fare. La colpa è mia, sono andato prima. È così, va bene. L'importante è sempre raccontare tutto. Ok, va bene. Però ho già finito di faticare, almeno quello. 62 anni di lavoro fatto io. Ho lavorato 62 anni. Pensa che andavo a scuola, andavo a lavoro e poi così a casa. Poi quando sono diventato un po' più grande facevo lavoro, cioè scuola, lavoro, palestra, scuola, lavoro, palestra e così via. Per anni. Pensate che ne ho fatto i sacrifici io. Pensandoci bene, ragazzi, io ho lavorato tanto, ho faticato tanto anche nello sport, tutto quanto. Quando mi avrò tolto tutta questa energia, non lo so io. Altri tempi erano giù, altri tempi che tornassero. Altri tempi e i giovani di allora non erano stanchi, come la maggior parte dei giovani di oggi, che sono stanchi da sempre, da appena nato. Poi man mano che crescono sono sempre più stanchi. Avevo 10 anni e mezzo io quando ho cominciato a lavorare. E nonostante tutto sono riuscito a diplomarmi, perché facevo scuola, lavoro e poi palestra, scuola, lavoro e palestra. Nonostante tutto sono riuscito a diplomarmi, anche se poi negli istituti non ho potuto fare l'esame di Stato, peccato. Ma c'era bisogno di soldi a casa, eravamo una famiglia numerosa, per cui ho dovuto contribuire, essendo anche il primo genito. Così era, famiglie numerose, si muovevano gli studi, si andava a lavorare. E ciccia, metriche ballacche, e va bene. Vabbè, comunque. Però, vuol dire che tutto sommato sono soddisfatto, dai, sono soddisfatto, perché è vero che ho lavorato tanto, è vero che ho sacrificato soprattutto tanto, per non contare poi le ore che ho fatto di lavoro. Non è che facciamo le sue 17-8 ore di lavoro, no? 10, 12, qualche volta 15, chi lo sa? Qualche volta, più di una volta, soprattutto quando avevo iniziato a lavorare in gruppo, che anche tante volte alle 11 di notte ancora incollato, era per il pronto l'incollaggio di domani, perché lavoravo tutto il giorno per il lavoro che stavo facendo, poi la notte si preparavo gli incollaggi, anche 7, 8, 10 porte, tutti in una volta incollati, per avere pronti per il domani con la colla più asciutta, in modo che potevo proseguire. Secondo le ore che ho fatto, a sa quanti anni ho per bene, 120 anni, e dai, come minimo. Così è giù, così, vabbè, però è stata una soddisfazione, diciamo, dai. Sì, e beh, sì, la soddisfazione perché mi sono fatto da solo, senza l'aiuto di nessuno. Grazie a Dio e siamo qua e sono tranquillo veramente. Ma dai, però, e poi la più grande soddisfazione è quella di aver fatto grande la famiglia e soprattutto di aver fatto laureare mia figlia, che adesso è in grado di difendersi da sola tranquillamente, ma non da adesso, già da 15, 16, 17 anni fa, è in grado già di difendersi da sola. Grazie a Dio sta lavorando, per cui va bene così, sono contento. Ciao Gara, meglio così, dai giù. E va bene, va bene. C'è la V. Tutto è bello nella vita. A parte il discorso case, eccetera, eccetera, no? Società che ti sei fatto, però la soddisfazione più bella, perlomeno per me, è quella di aver fatto laureare mia figlia, quello sì, quello è importante. Se ti sei chiuso per la prima figlia purtroppo è morta quando era piccola, però ne avrei avuto due. Invece mi è rimasta solo la seconda, purtroppo, anche quelle sono strutture, ma vuol dire che Dio ha voluto così. L'altra è sempre a coso, ma sta lavorando a tempo un periodo giù. Sì, sta lavorando 4 anni a tempo. Sì, però sto lavorando adesso per tutta la Sardegna, lavora per tutta la Sardegna, per tutti gli enti, regionali, comunali, quasi fosse così, no, tutte queste cose qua, comuni di Tempio, comune di Azzero, comune di anche a Cagliari, Circa, Oristano, Ruolo, insomma tutta la Sardegna, oltre a tutti i paesetti anche. Sì, già, grazie a Dio già sta andando, Vabbè, l'importante è fare qualcosa e portare a casa lo stipendio. Già se lo guadagno lo stipendio. Già se lo guadagno è come? Grazie, se uno si muove perché non rimane fermo, non rimane lì a piegarsi i pollici. No, grazie, tanto che si muove, ne fate dei chilometri. K, che è avanti che vuole entrare? Buonasera. Buonasera a lei. L'illuminato di due me. Sono io, illuminato, il Messia, colui che, se ricordati, che anche tu devi morire. Ma non dimenticare che tu sei già morto, e questa è la cosa più importante. Ciao, Eugenio. Eugenio, guardami com'è adesso il segnale. Ciao, Daniele, me lo vai? Eia, eia, che mi sono attrinzato i pantaloni oggi. Si sente, si vede e si sente. Se ci abbiamo tre, dalle parti, radio 5. Cappa, aspetta che ti faccio un altro passaggio, aspetta. Guarda adesso cosa è cambiato, 1, 2, 3, 4 e 5. Santiago 9, radio 9, 5 e 5. Ma li ha attrezzati bene i pantaloni, ho fatto bene la cintola, sì. Sì, sì, la buia. Almeno non li perdo più adesso. E io quando ti arrivo lì? In quello di Porto Torre? Otto. Bella yoga, bella yoga. Io sono a metà strada, no, a metà, no, comunque, sono nella valle, va bene. E io 9. Se spingi è logico, anch'io se spingo aumento. Va bene, dai, va bene. Mi interessava il rapporto segnale di Eugenio a me, che era il più lontano. E va bene, qua sta arrivando 5 adesso, Eugenio. Beh, sono 5 qua. Normale. Aiuto. Spegnete Barattini. Aiuto, spegnete tutto, dai. Spegnete tutto, ciao sì. E oggi, in estate ce lo faccio ballare quel baracchino a casa tua, perché sposto l'antenna e la metto al suo posto, perché adesso è in cantina. Va bene, sono qua. Buonasera, ciao Giulio, ciao Gino, e ciao Daniele. Mamma mia, di feo. Ori, Rolubis, alla tema su di te. Chi è? Avanti. Tino. Buonasera. Ciao sì. Metti che a piombo. Ehi, più a piombo di questo, no. Va bene così, va bene. Così va bene, dai. Va bene. Hai visto Daniele, ah? Oggi è proprio... a tutta birra lì. Ne si è poco riportato, sì. Vai, Daniele. Buonasera Tino, dammi il rapporto segnale dalle tue parti, com'è? Santiago 9, radio appena Saturina, ma già va bene, si capisce. Va bene, guarda adesso 1, 2, 3, 4 e 5. E adesso si è abbassato di un po', però la radio è più buona. Santiago 7. Va bene dai, va bene. Giustamente ha più che ragione, si sente appena pelo saturo e è normale, devo passare il fatto di questa radio, ma non ho nessuna voglia. Poi faccio la prova la prossima settimana, come ritiro l'altro, vedrai cosa succede, va bene. Vabbè, per noi ce n'è anche per i maialetti, già va bene. Gaba, però questa radio oggi sta andando qualche problemuccio, non ne vuoi sapere, boh. Giulio! Dimmi. Ti ha chiamato Antonio per caso? Sì, ieri sera, siamo stati più di un'ora a telefono chiacchierando. Eravamo a tanto tempo senza sentirci. E siamo anche a tanto tempo senza vederci, perché prima veniva sempre da me. Ma quando stavo lavorando, ogni tanto si faceva vivo. Ehi, con Antonio ci conosciamo abbastanza bene. Sì, gli ho dato tutti i miei treni che necessitano. E poi ci penserà a lui. Lo so, infatti, ho detto l'unico, guarda, dovresti chiedere a Giulio perché so che ha la morata Andre, quindi lui ti può dare le dritte, perché io ne ho dato una autocostruita che sei tu chi me l'ha fatta, però era, non so se te l'ha spiegato, era un corto a metà. Ho che sì, ve l'ha detto, ma evidentemente c'è qualche piccolo difettuccio, si sarà strappato qualche filo, qualche cosa, insomma, qualche piccolo difettuccio ce l'ha, perché se è così bassa. Ma era interrotta, Giulio, era interrotta, quindi non ce n'era. Vabbè, comunque, vi ho dato la dritta di chiamare a te per fare quello che doveva fare, così almeno si attrezza anche lui. Va bene. Daniele, tu invece? Io mi sono attrezzato oggi, finalmente ho trovato la mia antenna che stavo cercando. Mimmo, entra io che ti voglio sentire. Ciao Anto, ciao. E quindi almeno ogni tanto ti fai sentire, dai, hai visto? Sentito la Giulia? Sì, l'ho sentito. Io sei da tu. Ma super già di un profeta, non c'è qualche. Non lo sento più. Ma super già. Perché non ha parlato. Ah, ecco. Sì, che c'è, Eugenia c'è. Si sta mandando un telefonino che gli si è impallato. Sta sistemando il telefonino, già rientra dopo. Scusa un attimino, Anto, se ci sei ancora, vai un attimino sul 15. E quindi Uge, che si dice? Ma niente, è uscito al volo, mezzo, quattro piatti al giro, e forse è sul forse. No, vi faccio la russa, non forse, vi faccio la russa. E vi faccio forse un certo mondo, oggi un po' di giugare. Andale. Io sto usando la gemella della tua di antenna adesso. Ah sì, lei è sì, la ci guardavo. Capa Rogero, l'ho finalmente buscata, è presa al volo. Va bene lì con l'antenna, va benissimo. Qua la differenza che c'è, e sono liscia adesso. Quando ti arrivavo uno o due di segnale prima. No, ti arriva più zero. Non mi muove più nemmeno la traccia dallo spinte. Adesso si è saltato 3, 4. Orifero il ricambio. Hai visto? Sto usando 4 watt, EUG. 4 watt, tondi dell'apparecchio. Perfetto, va bene, andate giù qui. Sei giù, ha visto l'albero della cuccagna, ci manca ancora un elemento per essere finito, ma alla fine sono 2 metri di differenza, non penso che faccia questa grossa differenza. Non vorrei mettere più attenzione a te, però troppo a paura per il vento, cioè se me la butta giù è un calcino. Quello è, già c'ha 3 staffe, gli ho messo 3 staffe, 2 al piano di sotto per tenere il piantone e l'altra su per tenere l'altra metà dei pali. In pratica i primi 3 elementi si può dire sono tutti ancorati, gli ultimi 2 che escono fuori dal tetto, diciamo, quelli sono liberi, che sono più sottili, se no poi restano 3 ancorati e 3 liberi e va a flettere troppo. No, non mi piace la storia. Ma tu abiti in campagna? No, io abito in città. Ah, ok. Io qua potrei fare quello che voglio, perché abito leggermente alla periferia di Porto Torri, dai. C'ho il terreno per conto mio, la casa per conto mio, e posso fare quello che voglio. Però qua ci tocca il vento, un casino. Quello è anche da considerare. Quindi sei prima di Porto Torri, dai, venendo la 131. Eh già, lo so che sono i campi da calcetto di Maddalena. Sì. Confinate praticamente. Già va bene, dai, ho capito. Bene o male, già ho capito. Va bene, però per la distanza che c'è, insomma, già sto arrivando benino, dai. Non ho capito, dai, cos'è? Ho detto, per la distanza che c'è, sto arrivando benino. Sì, perfetto. Meglio così, dai, riprendi Giulio. Giulio non c'è. C'è rimasto qua poi, avanti. Ciao Daniele. Buonasera, chi è? Lei è Franco da Sassari, complimenti per le migliorie. Ciao Franco, grazie. Si sente, no? Sì, alla grande. Si è lievitato da un segnale di 6, 7 a 9 più 5. E sono liscio. Aspetta, guarda. Guarda adesso cosa cambia, 1, 2, 3, 4 e 5. Così arrivi al più del più 30. 9,25, là. All'incirca, dai. Io come ti arrivo, ricevi anche meglio sicuramente. Sì, sei 9.20 qua. Così sono liscio anch'io, quando una ventina di watt così sono. Va bene, fra, va bene, lì siamo lì tutti quanti, 9.20, 9.25. Siamo lì, diciamo che ho ripreso il mio vecchio segnale, si può dire. No, ha migliorato alla grande. C'era anche Giulio, vuol dire? Sì, c'è Giulio. Però si è spostato. Va bene, ok. Dai, fai girare. E che altro c'è? Ciao Marco. Ciao Giulio, carissimo. Sono anch'io. Eugenio. Sveglia. Vai fra per Eugenio. Lo sento a malapena, proprio appena per sentire, perché mi rimane coperto rispetto alla mia antenna. Io ti sento fra. Basso il segnale, la radio va benissimo, però ti sento. Sento che parla, ma non lo capisco. Fa bella Eugenio, fa bella. Ho detto che io a te fra ti sento. Segnale basso, però la radio è andato fuori, ti sento bene. Sentito il fracco, quello che ti ha detto? No, c'è un po' di QRM, quindi sento che modula, ma non capisco, se mi dispiace, non capisco alcuna parola. Ha detto che a te ti sente bene, però segnale basso. Ripeto, l'antenna, c'è tutto il palazzo di fronte a lui, quindi non ce la fa attraversarlo. Infatti, il motivo è quello, certo. Hai visto Daniele che è uscito fuori dal guscio? Sì, gli ha fatto anche complimenti. Ok. Gli ha mandato anche la fotografia dell'antenna. Anche lui ce l'ha così in facciata, però attaccata alla ringhiera, ma diciamo che supera il tetto, dai. La montovana del tetto lo supera. Come me, dai. Appunto. No, ma lui fa uscire fuori tutta l'antenna, e la diamina addirittura fuori dal tetto. No, vabbè, a malapena la punta esce dalla grondaia. Adesso ti mando un messaggio, cioè una foto su WhatsApp, lo fa. E quindi ci farò una piccola risatina. Vediamo un po' se ti piace quello, come si trasforma in un attimo alla Michael Jackson. E intanto, dice, vado a recuperarmi il cellulare, dai. Lubrofe, gaffetto. Ok, Lubrofe sta già costando il telefono oggi, il telefono è in tilt, lo sta ripristinando, lascialo lavorare. Ma no, da che diavolo ti ci riprende? Ne serve il telefono, lascialo fare, se lo dovrebbe ripristinare, ne serve. Io sto prendendo colpi al canale 23 invece. Che apparato stai usando? Io al 48. E prende colpi? Come apparato, un po', vero? E una sussa, altro che colpi, una sussa. No, io qua non sento zero proprio, questo apparato, anzi, è un po' sordo, a dire la verità. No, il mio sente troppo bene, bisogna farlo un po' sordo. No, di quella tu lì proprio non sono contento, anche se mi arriva uno 9.30, no. Non mi disturba, al massimo mi può disturbare un canale qua a fianco, boh. Andare, già mi attrezzo anche da quel punto di vista, mi sono attrezzato per l'antenna, adesso proseguiamo. Adesso ho aumentato appena, Eugenio, mi ascolta meglio? Sì, sono qua, fatti vedere che sto puntigliando con mia moglie. Non ho capito, cosa ha detto? E sta puntigliando con la moglie. No, che ho messo un paio di watt in più per vedere se sono aumentato lì. Va bene, dato inutile, se io non sento lui, è inutile. Ehi, alla grande sei aumentato. Sei sul più adesso. Adesso sono al numero 2. Aspetta, provo a aumentare. Così è 3, 4, 5. E così è... Aspetta, non devo guardare. Sì, però mi sto dando troppi watt in ingresso, ma sto saturando, vero? Un pelo sì. Un pelo sì, andiamo alle prime due posizioni, bene. Sì, così a manetta, proprio qui sono parecchi, Si vede. Cava. Lo riaccordiamo? adesso sei nuovo tu. Anda Benaveda, Giulio! Sono qua, guarda quei due fatti che ti ho mandato a vedere, oh, fra, guardali. Ehi, ora apro. Allora Daniele, cosa dici? E ti vuoi trasformare anche tu, sì o no? E cosa giù, che sto prendendo colpi e non ti sento tanto bene, dimmi. Ho detto, se ti vuoi trasformare anche tu in nigeriano. Ci stavo pensando qui giù. Ci stavo pensando, magari mi danno telefono, tutte cose, chi lo sa, cittadinanza. Reddito di cittadinanza! No signori, devo avere una cosa veloce adesso mi ti cazzo. E cosa ci vuoi dire veloce? Io dai, dicelo subito, fai la muglia. È talmente veloce, adesso mi ti cazzo. Talmente una veloce che sono diventato il gatto. vabbè, dai. Pensaci e poi ce lo dici. Quello che ti vuole venire. Giulio. Sì, fra, dimmi. Ma è la festa che fanno una moiata questa. Ma dimmi tu se quelli possono usarmi in mente. Per me sono due pazzi. Oh yeah. La festa che fanno cos'è? Sant'Antonio, la festa del fuoco. Che si tingono la faccia di nero, ma con un po' di carbone, questi hanno esagerato. Incredibile. E l'altro, quello della motosega, quello è un pericoloso, ma quando mai uno deve mettere in moto la motosega in quel modo? No, aspetta, questo no, non l'ho aperto ancora, adesso lo guardo. Ma non parte però. Non parte, non è partita, ma è senza caso parte improvvisamente. Cosa le succede? Oh, ora va davanti, cazzo. No, ma solo il gesto ti fa dire. Questa posizione come si è messo. Sappiamo benissimo che quando parte la motosega è già in funzione. E già comincia a tagliare tutto quello che trova. In teoria dovresti mettere il blocco sulla lama, sulla barra, prima di mettere moto e poi la sblocchi. Lo so che si può fare così, però è pazzesco che uno possa fare un gesto del genere, questo è pazzesco veramente, perché non si sa mai, il blocco può anche saltare e ti parte e lo spacca in due. Ma spero che sia una cosa fatta per ridere, basta, lo spero di tutto cuore. Sì, ma la condizione la stava tirando, a meno che non c'è la benzina o qualcosa del genere, insomma, che abbia fatto, oppure ha tolto la candela per non mettere in moto, allora sì, è diverso il discorso. Però è proprio un'azione fatta così e nella maniera più fatta possibile. Guarda se ti piace questo tatuaggio che ti ho mandato, c'è un tipo che sta tagliando l'erba. Adesso guardo. Avanti Daniele. Gava, sicuramente gli avranno tolto la candela. Perché la cordicella era troppo morbida per tirarla e non si trova il punto morto. Sembra senza compressione, sembra, no? No, ti manca il rinculo, diciamo, quando trova il punto morto superiore, quando va in accensione. È il contraccolpo che ti dà la compressione, là. Eia, invece quello tirava tra, hai visto, non tranquillamente. Non fai già venire questo, proprio bello, hai visto il lavoro che ho fatto, eh? Un'opera d'arte. Grazie, sta meglio di così, guarda, proprio bello. Oh, yeah. Dai, lanciate Eugenio. Eugenio, ci sei ancora, se sei andato. Sta pensando a cosa voleva dirci velocemente. Io, va bene, dai. Va bene. Adesso me metto in cantiere un'altra di antenna, così ho il doppione, almeno ce n'è una del riserva, così quando si spezza una c'è un'altra pronta. Ma lo sai che ci stavo pensando anch'io? Sì, infatti, non è... Infatti... Ho già messo a parte il pezzo del tubo, quello da scarico di plastica, proprio per fare la bobina, e così piano piano adesso la facciamo, un po' alla volta, non è più fretta. Poco fa ero a Osilo, in una campagna, e questo tipo c'ha un palo di vetroresina che praticamente era l'albero di un cerfo, qualche cosa, di un catamarano. Parte con un diametro di 6 centimetri e poi finisce con un diametro di, forse di 3. Ed è due pezzi, no? Vai nettato. E penso che arrivi oltre i 7 metri, quella andrebbe bene come antenna, eh. Quella non si piega col vento. Lo so, lo prendo quel palo, una volta l'ho intenzionato io, prendo, poi ho preso il testato e ho fatto mano, dai, non mi faccio niente. Sì, è a canocchiare, certo, come la canna da pesca, uguale. Solo che questa ha delle sezioni grandissime, dunque 6 cm è tanto, prima di questo costava mi sembra intorno alle 45 euro, cosa del genere, ma se me la vendono, sì, nei negozi che vendono roba di elettronica la si trova. Quando c'è in campagna la usa come tipo un corrimano, però si sta lamentando perché il vetroresina dopo un po' che si brucia inizia a sfogliarsi e quando ci passi la mano già lo sai l'effetto che fa, dà un fastidio enorme, iniziano a conficcarsi nella pelle e ti dà un prurito terribile. Infatti detto, guarda, se lo devi buttare me lo dici, gli diamo una levigata, una verniciata e lo uso come antenna. Beh certo, sarebbe utile, quella è resistente, quella è veramente resistente. Sì, in effetti è così, quando comincia a lavorarsi il materiale poi diventano degli spilli e se non sei attento ti bucano la pelle e la mano e quando lo tocchi. Sì, è vero. E vabbè, dai, perché vorrebbe verniciata per non sfogliarsi così, però col tempo naturalmente anche la vernice scatterebbe e giustamente si va a volare. Gli metto un po' di nastro, ma anche il nastro dopo un po' se ne va. L'unica è levigarlo un po' e verniciarlo un paio di mani, qualche anno durerà. Comunque gliel'ho opzionato, se devi buttarlo avvisami che lo prendo io. Avanti Daniele. Gaba, bella idea quella, Quella sarebbe una bella idea, che almeno così fate le comparazioni. Sì, io l'altro giorno ho toccato anche qualche mese fa i radiali della Mantova, di una vecchia Mantova che ho in campagna, e lo stesso, sono stato 2 giorni che toglievo, insomma, non dico bestemmiano, ma quasi, dai. Adesso siamo microaghi che ti pungono. Sì. Poi si va a deteriorare, si fa quell'effetto lì. E va bene. Riprenditela Giulio. Ok. Franco, scommetto che la bobina tu non hai usato nemmeno il piede, l'hai messo diretto o l'hai messo col cavo di discesa? O ci hai messo il piede? No, non ho messo diretto, anche se ci ho pensato. Praticamente gli ho messo due occhielli e gli ho attaccato due bulloncini d'acciaio che sporgono fuori diciamo dalla plastica della bobina. E poi lì ho messo di nuovo le altre due rondelle del cavo mio che entra dentro casa, sempre in acciaio. Come poi l'hai isolato naturalmente, perché quello come fai? È all'esterno quello, no? Sì, gli ho messo una specie di, come dice, di protezione, insomma, tipo una bottiglia di spaccata, praticamente gli fa da calotta. Ho capito. Allora potete mettere anche un mammut. Potevi mettergli quello anche, andava bene lo stesso. Un mammut. No, perché di solito il piede va attaccato alla bobina, no? Va attaccato. E dunque quello sarebbe un lavoro più ben fatto, ovviamente. Ma comunque va bene lo stesso. Perché hai risparmiato il piede a pannello. E più il piede normale, il 259. Perché ci vuole il 239 e ci vuole il 259, se in quel caso lì, no? Per poterli collegare. Sì, ho messo 2 occhielli sempre in acciaio, crimpati, no? Li ho tutti isolati con il Vulcan, li ho vulcanizzati. Penso che un po' dureranno, dai. Poi intanto li posso anche sollevare la calotta e spruzzargli un po' di spray, ma sono sempre lucidi, l'acciaio è acciaio, c'è da fare. Sì, questo sì, acciaio, quello già è vero. E vabbè, basta non prendere un po' magari nemmeno il cavo si lucida, per cui il contatto dovrebbe essere sempre buono. Perché non l'hai nemmeno saldato, perché con l'acciaio non riesce a saldare a taglio. No, no, gli ho grippato gli occhielli, proprio gli occhielli. L'occhiello poi entra dentro il dadino, dentro il bulloncino, poi gli metti il dado e rimane tutto un pezzo, dai. Un attimo che mi chiamano al telefono. Ok, d'accordo. Sì, va bene lo stesso. Bene. Avanti, Daniele. Chi è? Già, vabbè, qui ne fai un'altra, giuri, questo è Game Master. Adesso ne faccio un'altra, sì. Così mi diverto. Tanto la mattina non so cosa fare, ma la faccio in bottega, non la faccio. In bottega, è ufficio là, più che altro. Se lo fai è un ufficio, non è più una bottega. Nel retro bottega, diciamo, là. Me la faccio. Allora la voglio fare bene, la voglio fare bene. Almeno come costruzione, eccetera. In modo che possa sembrare una cosa ben fatta. Capo a Rogero, ma questa è la Rogero, un quarto d'onda è, giusto? La cosa, la Energy? No, la questa Game Master autocostruita, Rogero, da un quarto d'onda. 5 ottavi. Ah, il progetto per una 5 ottavi autocostruita. Allora, 5 ottavi è un grido. Ma dove sai cosa costa quella originale? 160 euro costa. Poi ce ne sono anche in certi posti, anche 180 costa, 185. Addirittura da Amazon costa addirittura 170 da Amazon. Però l'originale è sua, proprio quella della Tiglio, costa 159 per l'esattezza, allora 160 diciamo, più trasporto. Sì, lo so, perché me ne stavo guardando anch'io. Quell'antenna lì, però non ci va a capire, cioè quella autocostruita a 5 ottavi oppure era quella da un quarto d'onda, perché mi sa che c'è anche quella da un quarto d'onda. Questa è stata copiata da quel prototipo, cioè da quello che hanno fatto, quello che vedi sul computer, no? Era 5 ottavi, perché le misure sono quelle, dunque, e poi si è lunga 7 metri quasi, quando è lunga 7 metri siamo a 5 ottavi, poi se è mezz'onda, sono 5 metri è qualcosa, 5,50, 25, una cosa del genere. Se è un quarto d'onda sono 2,65, insomma, ci sono varie misure, sono la misura per sapere quanto è lunga, no? 5 ottavi sono 6,90 per l'esattezza, eh? Eia. Gaba, va benissimo. Anch'io la vorrei costruire. Come c'ho tempo me la costruisco. Tempo e modo di farla. La voglio provare. Eccomi. Vai, riprendi, Fra. No, mi stava chiedendo Daniele se da quanto era l'antenna, se era 5 ottavi. Quando 6,90 è 5 ottavi. No, perché esiste anche la Game Master originale, esiste anche il Zomba mio. Anche mezz'onda esiste. Gappa, sì, io sto guardando tutti i due modelli che c'erano. Sì. Va bene, riprenditela fra. Daniele, cosa c'hai sotto adesso? Cosa stai usando? Sempre il 48, con un aiutino. Intendevo l'aiutino, cosa stai usando? Il Boeing 747 in partenza, Ed è 2,20? No, questo è a 12. E come lo alimenti? C'ho due alimentatori, ho capito. Uno da 10 ampere, l'altro da 7, dove ci ho attaccato la radio. Li bastano 10 ampere? Penso di sì, però sto andando. Ma no, non esci male. Quanti sono quindi li hai misurati in uscita? No, non ho ancora avuto modo di misurare quanto dai in uscita. Però non penso che siano a un centinaio, forse ci arriva, ma non penso che li eroghi tutti, No, secondo me sì, Non vado per cento, ma te ne dà 80, al massimo te ne dà 80, Daniele. 80, vero Giulio, al massimo che può dare, no? Sì, sono 5, 6 watt, 7 watt al massimo. Però se esageri con i watt, allora anche quella in... mi accetta, cioè, la casa trova anche che l'ingresso mi accetta ben 10 watt. Ma se gli dai 10 watt incomincia a sentirsi un po' di compressione, capito? Quello sì, no, io sto dando 4 watt, quello era l'apparecchio. Niente di più. Ma era giusto per fare una prova, non mi interessa che il shuttle o non shuttle questo. No, no, esce bene, esce bene. È a MOSFET, fra. È a MOSFET, per quello che esce bene. No, quello non vuole. 60 euro costa. Costa 60 euro. Anche la GBC ce l'ha. No, no, va bene. Adesso provo io a cambiare l'apparecchio, che questo esce con troppi watt e me lo manda in saturazione. E poi provo a... facciamo le stesse prove alla stessa potenza. E mi dite se satura anche un altro apparecchio. Oh, capa, prova, fra. Beh, un paio di minuti. Ok, prova, prova. Siamo qua. Sì, beh, certo. Vabbè, dai. Comunque è così, oh, Daniele. Un'ottantina ne dà massimo, proprio quando è fatto tutto a posto, tutto in ordine, un'ottantina. Senza poi esagerare, ripeto, con il watt in ingresso, perché se gli dai 10 watt come dicono che li accetta, in effetti li accetta, però si rovina un po' la radio, invece con 7 watt così un massimo, ma esagerando, però anche con 5 va benissimo. Lo usavo molto Gianni, lo usava Gianni doppio RU, soprattutto quando usciva dal lavoro la sera, arrivava bomba dalla macchina lì. Sì, già me lo ricordo, giù, già me lo ricordo. Sì. Va bene, va bene. No, questo già l'hanno migliorato, meno male, mettendo i finali a MOSFET. Perché l'altro mi sembra che anche se potevi mettere per dire 4 watt come a questo, però se ne lavi 2 era meglio in ingresso. Perché è così. Quando incomincia a dargli troppa potenza all'ingresso, incomincia a saturare. Invece in quella maniera, perché bisogna trovare sempre un compromesso, perché è utile avere magari un Santiago in più di segnale e poi magari ti rovino la radio, no, non è conveniente così. È più bella sentire sempre la radio pulita, limpida. Cava, cava, e che adesso? Qualcuno che ha tirato una sussa di nuovo. Eccomi, come va questo adesso? Adesso è la manetta, eh? Fai un segnale più lungo, fra. Beh, vedi un po' se anche questo satura. Vabbè, l'apparato è freddo ancora, ma questo esce con la metà dei watt dell'altro. Appena appena saturo lo sei, di poco. Poi boh, dammi conferma, Giulio. Ma io l'ho sentito bene, la verità. Dipende anche dalla radio che riceve, alle volte. No, io lo sento bene, con K, sto ricevendo con K, lo sento bene, abbastanza pulito. Per cui va bene. E di segnale è anche bello forte, 9, 9.15 così, o quasi 9.15. Così da qualche watt in meno da rispetto all'altro apparato, però sicuramente 20 watt sono troppi per l'ingresso, dai. Questo ne dà 10, 11. Ok, no, esce bene. Non so se si può aumentare la radio, se sta usando un microfono normale, perché la radio rispetto all'altro è più bassa. Però il segnale è buono, caspita. 9.13, dai, dici quasi 9.15. Di segnale, per cui va bene. No, la radio, solo un po'. No, la radio è così. Forse la schiaccia un po' perché come si dice la potenza, dai. Abbassa un po' la radio. Ma non direi, perché la radio io la sento chiara, la verità. Io la sento abbastanza chiara. Non credo che sia la potenza. Magari con un microfono più performante probabilmente va bene. È anche più forte il radio. Va bene, là, comunque già va bene. Io voglio, grazie, tanto che. Tu immagini a Diofra, avendo la possibilità di mettere con l'antenna sul tetto, come esce. Uscirebbe che è una meraviglia veramente. Ma sicuramente, dai. Adesso sono ritornato. Ora. Ai minimi termini, qui sono liscio. Ha migliorato la radio? Sì, diciamo che è leggermente più chiara, però era abbastanza chiara anche prima. Vediamo il segnale quanto è diminuito. Così sono una decina, credo, dai. Se questo strumento è giusto. Così sei 9, hai visto, pensi che con quell'aiutino guadagnavi molto, ma molto veramente. Eh sì. No. Però sullo strumento segna, ne segna tanti, poi reali non lo so, Beh, certo, una, diciamo che c'è sempre una differenza, una percentuale di meno, cioè di più, può essere magari segnando nello strumento, però poi reali, poi c'è da considerare anche l'antenna, quanto è, c'è da considerare il cavo, tante cose, perché non è detto che sì, escono quei watt, però poi lungo linea si disperdono, soprattutto se hai il RG-18 come cavo di discesa, si dimezza proprio. Beh, l'antenna è fatta con 58, a parte vabbè, lo stub e il condensatore, vabbè. Non mi sembrava neanche di buona fattura, perché l'ho preso lì alla GBC, ma forse avrei fatto meglio, come dicevo l'altra sera, a usare lì un vecchio cavo che avevo io, almeno lì il rame ce n'era, sicuramente di più. Mi sembrava anche isolato meglio, comunque ho usato questo, per adesso va bene così. No, poi dall'antenna, diciamo, all'apparato c'è un RG8, anche quello di vecchia fattura. Ok, ho capito, sì. Sì, no, io direi di utilizzare per far, eventualmente se hai intenzione di farne un'altra di antenna, di utilizzare l'H155, che quella lì è molto più schermata e tutto, è un'altra cosa, dai, è meno perdita del 58, del RG58, sicuramente dovrebbe andare meglio, va benissimo così, certo. Lo so, purtroppo è così, tu devi pensare solo una cosa, che con la forza noi diamo, mandiamo per dire che so io 100 watt, supponiamo, no? 100 watt di baracchino, in antenna, in aria, sai quanto ce ne sono? Con quel cavo lì, che ha una velocità di trasmissione dello 0,66, c'è una perdita del 34%, sì, che ti puoi immaginare, da 11 metri ne togli praticamente il 30%, il 34% diventa una lunghezza, anziché 11 metri diventa 7 metri e qualcosa, 7 metri 30, 7 metri 40, non lo so di preciso, per dire, no? Questo quando si utilizza il cavo con una velocità di trasmissione 0,66 e invece il cavo è 0,83, tipo l'H1000, allora sono 17 metri in meno praticamente, 17% e diventano 13 metri in meno della lunghezza totale, della lunghezza d'onda, perché la lunghezza d'onda sono 11 metri, no? E il cavo nasce in aria, si mangia tutto quel metraggio che si mangia. Sì, la Camilla è proprio più robusta come cavo, vero, di diametro? Sì, però è anche è rigido, se vogliamo, è anche un po' rigido. Sì, si piega, state vero, se devi fare una curva deve essere ampia come minimo di un raggio massimo, proprio minimo, il minimo che puoi fare è 10 cm di raggio, di diametro. Diversamente si schiaccerebbe, perché è un cavo abbastanza grosso, dunque no, infatti dal PL bisognerebbe togliere la ghiera, eccetera. Quella ghiera non ci vuole, perché entra giusto a vite. E il foro centrale è del rame unico, rigido praticamente. E quando lo infili dentro il PL, nella parte calda del PL, non hai bisogno di saldarlo, perché è talmente preciso che entra praticamente a porta dentro il PL, o quasi. Ho capito. Invece l'H, il 155, puoi fare tutto, anche la bobina, diciamo, dell'antenna, giusto? Sì, l'H155 è delle stesse dimensioni dell'RG58, praticamente, quanto sono 6-7 mm di diametro saranno, a differenza dell'H1000 e del 213, che sono 10 mm e 5,05 di diametro, è il cavo più grosso. Ma invece l'H155 è quello lì, è flessibile come l'RG58 praticamente, e costa intorno a 1,50 euro più o meno a metro, metri da fusato. Quindi per fare un'antenna conviene usare quello, dai. Alla fine non sono tanti metri che ti servono, almeno c'è un'antenna più performante. Ascolta, voglio dire Daniele, si è sentito Gianni? Gianni è impegnato e suona sul telefono. L'ha accordata l'antenna? Non lo so perché oggi era alle prese con la mia, l'ho sentito io e Giulia, non sento quanto sarà, un'oretta fa era alle prese col telefono e si era bloccato. E poi mi sono anche dimenticato di chiederglielo. Tu hai messo un arringo, mi hai detto? No, un Energy 5 ottavi c'ho. Un Energy, e non mi rendo mai ricordo, adesso la controllo, dai. Guarda, c'ha tre radialini c'ha. Senza bobina è? No, c'ha la bobina sotto. Ah, ho capito. Buonasera, sono di nuovo rientrato. Ma Daniele, la tua ha tre radialini, la mia ne ha tre, ma sono lunghi i radialini. Io li chiamo radialini, ma già sono lunghi anche questi. E i confronti sono abituati alla Mantova, c'ha radialoni. Ah, ok. Oh, yeah. A te ci gioco. Va bene ragazzi, dai, ne approfitto che devo chiudere, sono già in ritardo. Ci sentiamo più tardi se coincide, dai, buon proseguimento e buon tutto. Ok, d'accordo, da me ci sentiamo più tardi, eventualmente se coincide. Ben rientrato OG. Franco, guarda il telefonino intanto, ti ho mandato una cosa, guarda quello. Ho visto l'antenna simile dalla Midland. 90 di euro, già così che anche questo, dai. Adesso guardo il tuo messaggio. Ok, guarda il messaggio, così se ne rendi conto. Intanto ciao Daniele, alla prossima. Ma guarda Eugenio, ancora non è rientrato l'Ubrefetta perché ha problemi col telefonino, come ti ho detto poc'anzi, mezz'ora fa o anche di più, e ancora sembra che non l'ha risolto quel problema. Vabbè dai, salutato Antonio, dai. Io ragazzi vi approfitto per salutarvi che c'è la moto che mi chiama, devo andare per forza a farmi un giro, se no è un problema, se no sto male. Ci sentiamo lei al mio rientro, ciao! Ok, ciao, alle prossime, dai, ci sentiamo. Buona passeggiata allora, dai. Grazie. È andato via, saluto anche Eugenio così, sì. Sì, ti saluta Franco, ma già ti sente, Ok, hai visto Fra? Sì, questa è l'antenna che ha messo Daniele. Sì, e quella è la sua casa, dove abita lui. Sì, ma quello che c'è giù cos'è? Un palo, quello che si vede che... Sì, è un palo. Sì, dalla ringhiera parte, dalla ringhiera, e arriva al livello di Mantovano, del tetto, non hai visto com'è? Anche lui ce l'ha installata in una posizione non molto felice. Eh sì, lui praticamente i radiali ce li ha sotto la Mantovano, dai. Io sono tutto sotto io. Appunto, se lui ha messo, io lo metto in palo, ha messo, perché abita nel piano sotto, capito? E pensare che la casa lì era sua, che quella di sua era sua, solo che su c'è l'inquilino e non vuole che salga sul tetto a piazzare l'antenna, ed è lui il proprietario del palazzo, non è possibile, cos'è il tuo mondo? Davvero, purtroppo è così, grazie per fare, e sai cos'è, perché c'è il padre che magari non vuole avere problemi con l'inquilino e sarà per quello magari, però sarebbe salito Daniele. Adesso ti mando il casino delle mie antenne, ti mando, aspetta. Ok. Guarda a vedere, è mezzo ai fili per tendere. Ok. Così almeno se sei invece già sono i fili che sostengono. Si vede? No, non è arrivata ancora. In viaggio, ancora in viaggio. Adesso è arrivata. Certo, sta. Stiamo bene. Purtroppo la situazione è quella che andiamo bene così, fa interessante sentirci a Puglia, arrivi bene qua, dunque poi se non basta ci metti anche l'aiutino e sei tranquillo. Il problema non è che il problema è che io sento poco, perché purtroppo l'antenna è attaccata al muro, sono circondato dai palazzi, quindi è un palmo dal muro, mezzo fare pompe di calore, che quando attaccano inizia a friggere un po'. Beh, quello è vero, sicuramente il motorino della pompa di calore, un pochino di QRM te lo crea, questo non ci sono dubbi. Comunque hai trovato il sistema come installarla e va bene. Va bene, Arco, che Aguglia. Sì, ce n'è una a fianco di... e una è proprio sulla punta di pompa di calore. E poi vedi che c'è il cornicione. L'altro giorno il vento, di quanto me l'ha piegata, me l'ha incastrata sotto il cornicione. Addirittura, perché quando si è sollevata poi essendo sotto è rimasta bloccata sotto. Beh, certo, quello poteva succedere, certo. Te lo credo. Hai dato una piccola scossetta così e l'hai liberata. No, avevo un'idea, ho detto, ma non mi sembra vero, ho detto, almeno non mi debutta giù la staffa dal muro, ho detto, perché è una staffa murata così, non è che sia così in profondità, sarà un poco più giù dell'intonaco. E invece si è disincastrata da sola, il vento me l'ha anche riportata fuori. Ok, sì. Va bene, ma comunque andiamo bene, dai. A voi, è riuscita la grande. Certo. Il condensatore non è cortocircuitato naturalmente. No, è una, come si chiama, lo stub si chiama, quello che va in corto? Sì, l'impedenza, quello per l'impedenza, sì. Quello va cortocircuitato, sì, quello va in corto. Mentre il condensatore, quello da 9 cm, quello no. Quello va attaccato direttamente alla cassa. Il filo unipolare, il filo elettrico, va attaccato alla cassa. E poi il polo caldo col polo caldo del filo che sale dell'antenna. Sì, avevo rispettato lo schema, dai. Allora, mi sembra che quello lungo va in corto, giusto? Adattatore. Sì, quello lungo sì, quello da 56 cm, quello va cortocircuitato, certo, quello sì. E beh, lì come li hai saldati, li hai al centro, come hai fatto? Ma li hai interrotti oppure hai sferrato il filo, il cavo e l'hai saldato così, come hai fatto? Sì, allora, per metterlo in corto l'ho saldato, vabbè, in testata. E poi invece ho spellato, dove ci sono le saldature, diciamo, intermedie, e ho sovrapposto e ho saldato, senza interrompere, diciamo, il cavo principale, dai. Hai fatto bene, sì, sarebbe andato bene ugualmente, non è un problema, però hai fatto bene, che hai serrato il centrale, hai serrato e l'hai collegato, l'hai saldato lì, e poi la calza a sua volta l'hai saldata ugualmente, sì, è così infatti che si doveva fare. Diciamo che ci sarebbe voluto, secondo me, un saldatore più, con qualche watt in più, per avere una saldatura migliore, perché a volte mi è sembrata un po', non dico fredda come saldatura, ma quasi. Sì, in effetti, lo sai che si può fare anche mettendoci il PL, mettendoci un PL si può fare lo stesso, si può fare quel lavoro lì. E cioè interrompendo il cavo, attaccando poi con il doppio PL, con il barlotto che si avvita piede da una parte e piede dall'altra, e va bene lo stesso così. Sì, in effetti ci vorrebbe un saldatore con una certa potenza che saldi un pochino di più per poter saldare la carta, non tanto per il centrale, vabbè, quello già è sufficiente, anche un saldatore di pochi watt, ma per la carta sarebbe stato meglio avere un saldatore un pochino più performante, un po' più forte di watt, là. Sì, ho notato che cioè te ne accorgi proprio a pelle che quando non sei soddisfatto del lavoro che fai, che ti manca qualcosa, purtroppo è così, del resto tutto lo possiamo avere, non è che facciamo quel lavoro, anche il mio non è che sia così potente, è un semplicissimo saldatore a punta, e dunque avevo l'altro quando l'accento batte, avevo con la pistola quello istantaneo, e purtroppo non sono riuscito più a trovare le punte, non le vendono più, sono andato in tutti i negozi di Sassari per comprare la punta, perché ormai nell'arco di tanti anni che l'ho usato si era bruciata la punta, e non sono riuscito ad averla, e pazienza, e allora l'ho messo da parte, anzi mi sembra addirittura che me ne sono disfatto, se ricordo bene, figurati un po'. E allora avevo comprato questo lì da Grassi a Fredanieda, dove c'era una volta Portobello, il primo Portobello, nella curva lì, c'è un negozio di elettronica. Sono entrato lì e ho comprato uno, lì l'ho comprato, diciamo per piccoli lavoretti che faccio io, siamo bene ugualmente, però per l'antenna ci vorrebbe appunto un saldatore un pochino più performante, più forte come il calore. Là. Sì, io mi ricordo una volta avevo ricostruita quella punta con del rame un po' robustino, l'avevo sagomata più o meno a grandi linee come l'originale, e anche per un paio di anni ha tirato avanti anche quella punta lì. Sì, va bene che rifacendola così, anch'io l'avevo rifatta, però poi ho provato a saldare cose un pochino più grosse, diciamo, e si bruciava continuamente, ho fatto la bula e non l'ho messo da parte, non se ne farà più. E non mi ricordo se l'ho conservato ancora, se ce l'ho ancora conservato o se addirittura ce l'avevo buttato, non me lo ricordo, la verità. Poi ne ho uno, quello lo stesso, quello è bello, quello funzionava a tutti i voltaggi, funziona a tutti i voltaggi, anche lì ci manca la punta. Qui a casa sono andato a vedere se la trovavo, non le trovi, è vecchio, è un vecchio saldatore che usava niente meno che la siente, quando faceva i lavori ad esempio telefonici, queste cose qua, no, questi lavori che sottoterra, sotterranei. Un amico me l'aveva dato e non funzionava, e io allora, perché non funzionava, per il semplice motivo che avevo un problema nel trasformatore, però io sono riuscito a sfruttare il trasformatore in un altro modo e l'ho fatto funzionare tranquillamente, e funziona, però e ce l'ho sempre, però ci manca sempre la punta anche lì, quello sarebbe stato meglio, anche perché quello ha diverse temperature, quello inizia da 3, addirittura da 3 watt fino a 60 mi sembra, una cosa del genere, però non ho la punta. Poi stavo pensando, vado al marchese, compro un pezzettino di rame di quelle dimensioni, di quel coso lì, se c'è, se penso di sì, e la faccio io la punta, e quando funziona veramente bene. Sì, io ce ne ho preso uno addirittura a gas, ricaricabile con la bomboletta. L'ho provato un paio di volte, ma la punta, non dico sciolta, ma quasi, si è tutta corrosa. Adesso un amico che c'ha il tornio me la sto facendo ricostruire con proprio il rame come si deve, perché questo secondo me non era neanche il rame, era un metallo particolare. Caso strano, ho fatto un paio di saldature e la punta si era già rovinata. Adesso se riesci a farmi la filettatura giusta, perché questa la punta è a filettatura e c'è un passo un po' strano, stiamo vedendo se riusciamo a farla. Ok, sì, beh, certo. Già si può fare, contorno, magari già si fa, non è che non si fa, però per dire, purtroppo non si trovano, i ricambi non si trovano, perlomeno qua a Tata, forse fuori si troveranno, ma come fai tu a fare la richiesta di una punta o due punte o di 10 punte per il saldatore? Si mettono a ridere, si mettono. La prima cosa che penso, caspita, ma questo se l'ha ordinato qua vuol dire dove abita lui, se la città dove abita lui non ne hanno di queste cose, boh. E dunque ho lasciato perdere. Sì, dai, ci arrangiamo, dai, vediamo cosa riusciamo a fare. È che a gas l'ho preso perché è molto comodo, lo stavo aspettando in offerta, l'hanno messo alla Lidl, mi sembra, come si chiama, LD Lidl, questo che c'è qui a Pradanieta. E ne ho preso anche altri due per i miei colleghi, che anche loro lo stavano cercando. Uno c'ha la barca, anzi in due hanno la barca, io devo saldare un PL in macchina, qualcosa in macchina. non c'è corrente, non c'è niente, quindi utilizzi questo a gas, è molto utile. E poi fa anche da, come si dice, la phon, riscalda anche se devi usare, non so, tipo del termorestringente, oppure devi fare una saldatura d'aria calda, tipo un LED, cioè hai anche la possibilità di usare l'aria calda. Ah, così è bello, sì. Sì, comunque il termorestringente si può usare anche con le sue cappelle di casa, non è... interessante avere sempre il materiale è giusto. Credo che quello è importante, vedi, fare il risolamento così è molto importante. Così almeno non entra umidità, non entra niente. Ma quello si può usare anche la sua cappella di casa, si può usare, facendo attenzione a non bruciarsi naturalmente. E va bene, quello va bene. E vabbè, purtroppo è così. Siamo a Sassari, è Sassari a lontano, c'è il mare che ci divide. Nel bene e nel male, sì. No, io intanto già lo uso anch'io, tengo il stringente, se devo unire un paio di fili, non c'è cosa migliore. A volte uso anche l'accendino, Sì, ma sai cosa potrebbe fare? Per la calza, sai quale che va bene? Se quello a martello, quello lo vendo anche da bricole, lo vendo. A martello, che c'è la punta grande, larga, quando scalda quello, con lo stagno, la calza la puoi saldare, tanto non è che hai punti di poco spazio, per saldare la calza va bene quella a martello, con quello sì, mentre invece per il polo centrale quello va bene anche il saldatore da pochissimi watt, va bene così. Da piccolo, voglio vedere se cosa costa e se ne vale la pena comprarlo, lo voglio vedere, la prossima volta che vado a Bicco lo voglio guardare. Quelli, come si chiamano, a martello o a coltello, se non ricordo, forse a coltello, che finisce a taglio, là? Sì, che hanno una punta a taglio, sì, è larga di almeno 2-3 cm, sì, quelli, vabbè, devi aspettare che scaldino abbastanza, e poi lì lo stagno a voglia se lo chiude, per la calza va bene quello, vedi? 19 euro. Buonasera a tutti. Ciao Franco, tu ce l'hai quello, Franco? No, negativo, non l'ho preso quello lì. No, io ho una frazione saldata, quella da 480. No, quella che stai dicendo tu da Bicco come costa? 19 euro. Franco, mettimi una cosa, tu pensi che funzioni quello lì, che vada bene? Perché io una volta ne ho comprato un saldatore da Bicco da 100 watt, però di quelli istantanei, no, a filo, sai, quelli con la lucetta, eccetera. Poi, appena l'ho attaccato, dopo poche saldature si è bruciata la punta, cioè di un rompato. Però io ne avevo uno originale, proprio di quelli dei tempi d'oro, di allora, perché solo così si potevano definire allora quel tempo, e non sono riuscito mai a trovare la punta, non sono riuscito. Credo di avercelo ancora, ma forse ce l'ho anche buttato, non lo so. Tu pensi che quello di ammantello funziona per quel lavoro che possiamo fare noi, per andare bene la casa, eccetera? Sì, potrebbe funzionare, ma devi stare lì con la bombola del gas, devi stare, e via. Conviene spendere 60 euro, 60 euro, non so adesso quanto viene, e prendere una stazione saldante, ti arriva fino a 480, a Puglia saldare e disaldare. No, ma poi sto parlando di quella battello elettrico, no, a gas sto parlando di quello a elettrico, a gas ce l'ha Franco di Sassari, ce l'ha, infatti stava dicendo che c'era lui quello. Vai Franco, viale Sassari, dai, non ti dico la via. Disastro, va bene, disastro. Sì, ciao Franco, intanto ben sentito, buona serata. Sì, no, il mio ragazzo ma è piccolino, per piccole saldature, anche se devi stare attento perché dal foro dove c'è l'aria calda, secondo come lo giri, ti scioglie e ti fa danno, quindi devi usare sempre l'aria verso l'alto se non ti serve. Ehi, capo. Ma vabbè, quello io non l'ho mai usato, quello a gas, neanche quello elettrico di ammartello, non l'ho mai usato e non lo so. solo che io avevo intenzione di prenderne uno, però sono ragazzi quelli che ho visto lì da Bicome. Di quelli a elettrico non ci ho neanche fatto caso se c'erano. Però diciamo che per comprare una cosa del genere, asciugare bene, fare qualsiasi tipo di saldatura e di saldare, va bene una stazione saldante, secondo me, al posto di quello lì. Capito, Fra? Sì, sì, comunque li ho visti anch'io, sia elettrico, quelli a coltello, sia a gas, tutti e due. Poi dipende uno dall'utilizzo che deve fare. Certo, quello a gas è comodo che lo usi dove vuoi, quello elettrico ha un'altra comodità, dai, non devi stare lì a ricaricarlo e cose varie. Infatti è così. Avanti Giulio. Ok, sì, in effetti sì, è così, lo usi dove vuoi. Quello lì praticamente è un saldatore, un cannello, è un cannello quello lì, è da tannino, da idraulico. Infatti certi idraulici ce l'hanno per saldare in certi posti, magari insomma, con una certa perfezione, usano quello lì a bomboletta e va bene, certo se va bene, altro che. Però loro usano la bacchetta di stagno, perché noi dobbiamo usare il filo, lo stagno a filo, per cui è quello. Vabbè, comunque sì, ci sono frasi, quelli elettrici così a coltello o a martello, come li vuoi chiamare, ci sono elettrici, non so quanto costano, comunque ci sono. Vai Franco De Sosso. Sì, io l'ho visto la gara, l'ho visto lì a Dublin, 19 euro costa. Poi costa più la bacchetta dello stagno che saldatore, perché ho visto la bacchetta dello stagno costa 16 euro, una bacchetta al solo. Che si sa, pazzesco, non è possibile, via. vabbè, ma tanto noi dobbiamo usare stagno per saldare fili elettrici, per cui già va bene. Eppure quello lo voglio vedere. Se mi convince lo prendo, così almeno vediamo un po', almeno quando mi occorre ce l'ho e basta. È sempre bello avere l'attrezzatura a disposizione, vero Fra? Sì, anch'io la penso così, non sta lì a chiedere agli altri, anzi poi è il problema è che saranno gli altri che chiederanno a te. Comunque l'investimento già non è così enorme, quindi si può fare, Giulio. Ah beh, questo sì, certo. Sì, no, ma voglio dire che mi convinca nel vederlo, per capire più o meno cosa può valere. No, come soldi, no, come cosa può valere lavorando, ma suppongo di sì, suppongo che funzioni, Se l'hanno fatto dovrebbe funzionare, perlomeno per fare quel tipo di saldatura dovrebbe funzionare. E mi ricordo che quel mio cannello lo usavo il carrozziere dove andavo io prima, Franco Albiuni, lì in via Cesi, e avevo il cannello le bacchette per i radiatori, quando dovevo saldare i radiatori, allora si usava ripristinare in qualche maniera i radiatori di una volta, a me me l'avevo fatto anche Franco, e così mi faceva anche risparmiare. E devo dire che una volta che lo puliva dentro tutta la tubazione, mi durava anni di nuovo, perché si sa, i radiatori già lo sappiamo, ma i radiatori di oggi può darsi che sono anche migliori, perché non mi è mai capitato di sentire qualcuno che ne va in ebollizione l'acqua, perlomeno delle macchine di adesso, dai 10 anni almeno a questa parte là. Eh sì, ormai vabbè c'è meno rame, cioè prima invece era tutto il rame, ci poteva intervenire. Comunque li riparano ancora, qui a Sassari in Viale Portatore c'è uno che li ripara. Noi a volte abbiamo dei radiatori enormi nei locomotori, nelle motrici, nei treni, dai. E li mandiamo a riparare o a ricostruire. Comunque ancora lì ci sono questi qua, dai. Avanti Franco. Capo, sì, ma anche i meccanici lo fanno ancora, perché ho visto lì mio fratello che a volte ci va qualcuno e ci ha arrivato il bucato nelle macchine vecchie, no? E glielo ripara, c'ha quel saldatore lì elettrico, quello a martello. e glielo ripara con lo stagno così, tanto per tirare. Sai, c'è gente che non c'ha soldi, sì, a comprare uno nuovo, allora se lo fa riparare. Sì, e beh certo, soprattutto quando la macchina comincia a essere un pochino vecchiotta, a comprare il radiatore costa più di quanto vale la macchina, per cui allora uno ricorre a queste riparazioni così, spende poco e continua a camminare ugualmente, non è che no, non è che non va bene. No, in effetti io l'avevo fatto fare, mi ricordo, Franco Biuri, era nella stessa strada dove avevo una bottega io, per cui e poi ci conosciamo da quando eravamo ragazzi, tantissimi anni dunque, e lui me lo metteva a posto, era verità. Anche la marmitta delle volte mi ha saltato, il terminale della marmitta che si buttava e magari faceva un po' di rumore in più, e me l'aveva quanto ci vuole per mettere la marmitta nuova? Ma fammi vedere, cosa c'ha? Buca, non fa niente, gli mettiamo un rotto, un pezzo di lamiera, prendeva un pezzo di lamiera, lo tagliava un quadrato di lamiera e gliela saldava sopra la marmitta, fra. E andava bene per anni e anni, anzi non si buccava più lì. Vai Franco di Sassari. Sì, sì. Io tanti anni fa avevo una 1 turbo diesel. Aveva una bella marmitta dietro, molto pesante il terminale posteriore. Faceva delle curve un po' strane. E fatto sta che, forse per il peso, in questa curva si spaccava sempre. Alla fine abbiamo preso dalla lamiera non tanto grossa, scaldata col cannello, abbiamo fatto una specie di fasciatura, come una garda, su tutta la curva, scaldavi e fasciavi, e poi tutta saldata. Beh, mi ha un po' modificato la forma, perché la saldatura un po' ti deforma, tira un po'. E sulla retromarcia a volte batteva un po' sotto il paraurti, però no, non c'è più rotta. Sì, ma così resisteva moltissimo, lo sto dicendo io, a me me la faceva Franco un paio di volte, ma prima in una macchina, poi in un'altra e così via, me l'ha sempre sistemata lui tranquillamente, senza nessun problema, e devo dire che non si è più bucata, poi ho rottamato anche le macchine e con la marmitta che andava sempre bene, andava, beh certo, è così. Avanti, sorso. Io mi sono dimenticato di quelle cose. Io ho 12 anni da fatto questo mese, la mia, e non ho mai cambiato la marmitta, mai, è un diesel, e non mai, sempre bella, lucida, pippante. Almeno quella, invece nelle altre, quelle a benzina, a quest'ora minimo ne avevo cambiato già 3 o 4. Che marca è la tua macchina, se lo puoi dire? È una 207 della Peugeot. Una Peugeot, no, io ho avuto tanti anni fa una Passat, una Volkswagen, la marmitta della mia era a benzina, anche se andavo quasi sempre a gas. Anche io l'ho rotamata, avevo oltre 12 anni, mai cambiato la... Sembrava un acciaiovino questa marmitta, mai cambiata. Infatti, io da poco questa qua l'ho tutta ripresa, l'ho anche tutta verniciata, sta qua. L'ho fatta mettere sul ponte a vedere sotto com'era messa la marmitta, tutto quanto. Quando l'ho vista... ho detto, questo sembra uscendo nel negozio, lascia stare, dai. Infatti mio fratello mi ha detto, dice, vai che questa, rottami la macchina e questa è ancora buona. Capa. No, ci sono le cose buone ancora. Ancora ci sono, dai, avanti giù. Sì, ma infatti è così, infatti era proprio così, io lo credo. No, ripeto. Franco carrozziere veniva sempre da me, no, lui sempre tanti lavoretti gli ho fatto eccetera, ma lavoro sempre a titolo di cortesia, e poi andavo da lui, fra così e così, non ti preoccupare, portala, ci andavo, tanto più che a 300 metri di distanza, da me nemmeno forse 300 metri, forse 200, là. E dunque me lo mettevo a posto, no? Non c'era problema. Vabbè, invece adesso un po' come avevano lasciata e chissà dove, forse in parcheggio, forse qua sotto casa, oppure da Bricome o da Città Mercato, non lo so, da dove ho fatto la marcatura, la macchina nella parte destra della ruota dietro e mi dava fastidio questa marcatura che c'era. Ho preso e mi sono messo e me la sono fatta io, che ho l'attrezzatura, che ho problemi, non ne ho verniciare, sono verniciare perché ne ho consumato tonnellate di vernice a tutto e dunque me la sono sistemata tranquilla pacifica senza stare via. Ma dovevo portare da Roberto, dovevo portare la farina, pure fatto, ma io adesso ho il tempo, ho le capacità per poterlo fare il lavoro eccetera, mi sono stupido che siccome mi dava fastidio mi sono messo e un paio di giorni me la sono fatta. Perché prima l'ho raddestata, poi l'ho sucata, levigata, preparata tutta, verniciata e data anche trasparente sopra. Dunque, se va bene la macchina, ma l'hai fatta tu? Sì, l'ho fatta io. È come se l'avesse fatto il carrozziere. Ma io problemi di quel genere non ne ho, perché io mi ricordo a fianco alla mia falegnameria c'era un carrozziere, c'era, tanti anni fa, un certo Mario Perantoni, che poi aveva aperto l'officina di punti, davanti ai giardini di punti, e aveva il verniciatore, lui aveva, però questo ragazzo quando si ammalava, lui entrava da me giù, ho preparato la macchina, non è che me la spruzzino, perché lui non sapeva spruzzare, perché lui in realtà era il carrozziere, non era il verniciatore. Fatto sì che sarà tutto male, già pronta, già tutte isolate e tutto quanto. Io entravo, una mezz'oretta gliela spruzzavo e me ne uscivo fuori, tranquillo e pacifico, e basta. E visto Franco di Sassa. Sì, me lo ricordo per Antoni, me lo ricordo questo carrozziere. Ci vuole un ambiente pulito, senza polvere, per non rischiare che ti si attacchi qualche porcheria alla carrozzeria, dai, c'è la verniciatura fresca. Io l'altro giorno ho visto un fuoristrada, no? Io sono appassionato di fuoristrada. Praticamente questo qua gli hanno dato questa vernice nera, nero opaco, un po' grezza, guarda, mi piacerebbe farla così la macchina, la mia è nera lucida, ma quando passo in mezzo ai rovi, non dico mi piange il cuore, ma quasi, vedere tutti quei graffi dopo. Non so se la conosci questa verniciatura. Ma di quella a tipo fondo praticamente, di quella che si mette sotto nella sottoporta? No, non lo so, è un nero opaco, bello, cioè è bella anche da vedere, cioè non è neanche brutta. Ho visto una Jeep, una Wrangler, un bel fuoristrada, e a quanto pare resiste anche i graffi, boh. No, non te lo so dire, non lo so. Di vernici di macchine non è che ne so molto, però di vernici di legno tanti, però spruzzare e sottostare come anche, a voi già, è anche troppo bene, tanto più che dal legno devi uscire finita, non hai nemmeno, cioè non devi nemmeno lucidare, perché non ti lucida il legno, il lavoro del legno, della falegnameria, cioè il lucidatore di mobili, eccetera, la tutti e basta, deve essere finita così. Perché invece con la macchina è ancora più facile, perché tutti, se ci dovesse essere qualche piccolissimo difetto, ad esempio, che so io, un anellino che si è attaccato, una mosca che si è posata sulla vernice quando ancora era fresca, la levighi con una carta molto sottile, tipo 3000 ad esempio, e poi le dai una lucidata e non si vede niente, proprio niente di niente, per dire, no? Questo è diverso, il discorso della carrozzeria a livello di cosa, di professionalità, il mobile è mobile, la macchina è macchina, perché la macchina tu la puoi sempre recuperare lucidando. Mi sono spiegato, Franco? Sì, capo. Poi mi dirai queste pitture per le... Io ho cambiato le finestre qualche anno fa. So che sono cerate, non so, delle pitture strane, non sono più come quelle di prima, dai, tipo si dava l'olio di lino, cosa cavolo era. Mi hanno detto che sono cerate. Mi darai un consiglio dopo che cosa usare per dargli una rinfrescata. Avanti, Franco. Un attimo, scusate che mi è arrivato gente, che le prendo dopo magari se vanno via presto. A dopo, dai. Ciao Giulio, ciao Franco. Andate giù. Ok, ciao Franco. Attendi pure, attendi. ci sentiamo più tardi. Vai Franco per salutare a Franco. Sì, ciao Franco, dai, sentirci alle prossime più presto. Buona serata. Riprendi Giulio. Mi stavi seguendo, sì? Sì, ti stavo seguendo. Per le finestre è tanto semplice. Innanzitutto le rilassi, primo. Secondo, perché tutte le volte che si vernicia bisogna sempre dare una rivegatina, perché ha più aderenza poi la vernice che gli apre che sopra. Perché anche tu lato pulisce, sì, d'accordo, se pulisce, non niente a dire, però lo smog ambiente, lo smog della strada, lo smog che uno bacia quando tocchi la finestra dalle mani, sai, e tutte queste cose, una rivegatina e poi ridare la vernice on flat, idrorepellente. È una vernice che quando si bagna, ad esempio quando piove, la vernice la butta via, si vola via, non attacca. Ecco, se questo è trasparente, se invece la finestra è tinteggiata colore pastello, che so io, ho grigia, bianca, marrone, insomma, come ti pare ti piace, allora usa la Sinuil, la vernice Sinuil, che è ultima. Costa un pochino, mi sembra che costa 19 euro 750 grammi, però ecco, intanto è coprente, poi è duratura, molto, molto duratura, a differenza di altre vernici, ad esempio tipo Rotta di Fagliettifo, che va qui che costa 6-7 euro ogni barattolino, si siete può immaginare, la differenza, solo il prezzo dice già qualcosa. Vai, va. No, le mie sono in legno, dai, sono in noce. E quindi si vedono le venature nel legno, si vede tutto. Quindi fammi lo spiegare, perché non ho capito come... Oppure me lo scrivi su WhatsApp. Sì, in noce in che senso? Ma noce colore, noce o noce? Di cosa stai parlando? Di porte o di finestre? Le finestre, diciamo, si vede... Si vede il legno, dai, in trasparenza si vede il legno come è composto, quindi è una vernice che lascia vedere quello che c'è sotto, le venature. Sì, è trasparente, allora sì. Allora, Holzlack, H-O-L-Z, Lack, L-A-K. Ecco, quello lì è la marca, Holzlack. Irrepellente, e cioè effetto cera, vernice trasparente cera, e quella di là è quella, a meno che non deve ritoccare il colore. Se il colore è andato via, allora prima devi comprare sempre la stessa più vernice, però colorata, può essere noce, palisandro, Douglas, qualsiasi colore, insomma, ecco. Sì, sempre questa volta là, che però se manca il colore vuole o mi porta un campione, così quanti tipi di colore ci sono? Diversi tipi, c'è ciliegio, c'è palisandro, c'è noce chiaro, noce scuro, c'è rovere, ci sono tutti i colori di tutte le essenze del legno, non ci sono. Però ricordati una cosa, che più ne dai e più oscurisce, per dire, se tu ad esempio sei con la finestra e ce l'hai color noce, è già nera, no? Allora a quel punto lì devi stare attento, perché se prendi quella dello stesso colore, cosa succede? Che hai applicato un'altra passata di colore su quello, ti ritrovi il pezzo più oscuro del tutto il resto della porta. Allora in quel caso lì devi fare un abbinamento con la noce più chiaro, in modo da poter passare sopra e per non esserci troppa differenza, o perlomeno carteggi tutta la finestra e te la passi tutta quanta. Allora non c'è un problema. Ha registrato il break. No, sono in buone condizioni, la verità non si vede, sono leggermente un po' bruciate dal sole, ma appena, quindi un po' più chiara, dai. Quindi penso che se gli do solo col trasparente dovrei già migliorare qualcosa, almeno proteggo già la finestra, prima che vada a rovinare il legno. Comunque facciamo rientrare il break, avanti break. Sì, buonasera, Gianfranco, Alfa Bravo. una cortesia, Giulio, se mi senti, mi puoi dare un controllo di segnale, K? Sì, sì, già fa. Rimetti la portante, aspetta che guardo con gli occhiali, rimetti la portante, già fa. Sì, OK. 1, 2, 3, 4, 5, test. Guarda, ti faccio due passaggi. Non mi sei ricordato. Allora, potenza bassa, potenza un pochino alta. Allora, sei passato da 5,5 a 7. OK, benissimo allora. Sono circa, credo che un watt e l'altro forse... 10 watt, c'ho la batteria anche scarica, quindi ok, va bene, grazie Giulio, sono in ascolto e grazie anche alla famiglia. Ok, ok Gianfra, ciao, salutoni, d'accordo, ci sentiamo nel prossimo. Avanti Franco per salutare Gianfranco, vai. Sì, capa Gianfranco, qua da parte mia da un segnale di 1 si è passato a 5, però per quanto ricordo non è il tuo segnale, perché ti ho sentito con segnali qua molto forti. Ok, dai, buonasera anche a te, riprendi Giulio. Ok, sì, beh, certo, sì, no, già lo sentivo comunque, comunque la radio era chiara abbastanza, già frate, si è ancora ascolto, la radio era abbastanza chiara, non era molto alta, però era abbastanza chiara, era pulita. Va bene, va bene. Così è, oh frate, ho capito. Dunque, se tu devi, se non è molto, diciamo così, scrostata, per così dire, la parte bassa della finestra, senza dargli solamente il trasparente, magari se ripristina è possibile. Però ricordati sempre, levigarla tutta quanta prima di e la rivedici tutta quanta, no? Ma ripeto, la parte bassa, se è appena scolorita rispetto al suo colore originale, puoi sempre correggerla, come ti ho detto, con un colore un pochino più chiaro, magari se vedi che non ti arriva ancora, di là la seconda applicazione e si oscurisce, così, perché se la compri direttamente del colore suo originale, quando viene la passata, dove fai il congiungimento della vernice, allora ti distruggi una differenza, molta differenza, capito Franco? No, siccome non sono messe male, io volevo dare solo il trasparente, intanto almeno con quella la finestra intanto è protetta, così. Sì, beh certo, certo. Ecco, con le vernici ortolacche, sai qual è? Sono vernici buone, però il problema è che è trasparente, essendo trasparente durano poco, esagerando 2 anni io potrei riprendere di nuovo. Mentre invece quando le finestre sono tinte, a tinta, tipo pastello, allora ne passano di begli anni prima di aver bisogno di ritingerle. Naturalmente sempre utilizzando vernici di qualità, è come la Tinuil ad esempio. Però la Ortolac, ripeto, è un'ottima impregnante, se gli vuoi dare l'impregnante è ancora meglio. E poi gli dai la vernice, però l'impregnante deve essere normale, non è a cera, perché c'è anche l'impregnante a cera colorato e poi è un fasticcio, no? L'impregnante si dà sempre trasparente e poi se devi colorare devi comprare la vernice Ortolac idrorepellente colorata, se la devi colorare, se no la prendi sempre trasparente, capito? Ci sono tutte queste versioni qua, tu comunque sicuramente a te se sei con la trasparente dai quella tranquillo, per un paio d'anni sei a posto. Poi dipende naturalmente anche da quanto colpisce il sole, da dove arriva la pioggia, se è d'inverno e colpisce tutti i giorni, tutte le volte la pioggia, dipende da tante cose, perché ripeto, il legno trasparente è un po' delicato, anche se uno lo vernicia continuamente, lo mantiene bene, però lo deve riprendere di tanto in tanto, capito? Sì, sì, no, io cerco sempre di proteggere, tipo la mattina quando c'è il sole lascio le avvolgibili abbassate, quando poi se piove abbasso le avvolgibili, insomma cerco di riservarle un po', dai. Un'altra cosa, mi dirai dove acquistarla, dove prenderla e come applicarla, perché addirittura quando io l'ho comprata, questo tipo mi aveva detto la cera gliela potevo dare anche con uno straccetto, così ogni 2 anni gli passi questa cera, mi aveva detto, però così a grandi linee mi ricordo così. quando io ho sempre utilizzato un pagliato a spatola da 6 cm di larghezza, io ho sempre usato quello e va benissimo. Guarda che c'è il pagliato lavato proprio per i radici trasparenti, perché ci sono diversi tipi di pagliato, prendi quello con una setola buona, costerà magari 1 o 2 euro in più, però il pagliato deve essere buono. E, ripeto, prima di verniciare compri della carta abrasiva numero 220 oppure numero 180 che è grigia, carta abrasiva da falegname, non da carrozziere, no, quella da falegname, è a metraggio, è larga se no 12 cm e te la danno a mettere, se compri un metro, due metri, quanto ne vuoi, costa pochissimo. La taglia a pezzettini e la carteggia a mano, così, ma una carteggiatura così, la roccia, non è che devi stare lì a pregare a togliere tutto, no, attento a non togliere la vernice che c'è sotto, è solo per togliere quello che è lo smog, diciamo, dai, della quotidianità. E poi lo polveri e vernici, ricordati che deve essere ben asciutto e legno, non ti fidare, perché se ha piovuto per dire una settimana prima è bene non verniciare, perché il legno assorbe e dunque l'umidità c'è sempre dentro, anche se apparentemente può sembrare asciutto. Conviene fare quando il tempo è buono, dopo che il tempo si è stabilizzato, allora va bene. Questo io sto parlando delle finestre, se poi la roba interna è un altro discorso, se la roba interna non ne hanno mai preso acqua e dunque se la rifai quando si fa e ti piace, non è un problema. Però per l'esterno, questo sia per le persiane, sia per le finestre, sia per i portoni che sono all'esterno, però bisogna che siano sempre asciutti, perché se no tra la vernice e il legno si crea la muffa, si crea quel verde schifoso, brutto, ed è brutta la finestra. Vai Franco. Sì, ho preso appunti, mi manca solo il consiglio dove acquistarla e basta, giù. Vai da Papieri, via, prenda niente e loro ce l'hanno quel tipo di vernice. O anche che ce l'abbia anche Bricome, ma io andrei da Palmieri per comprare quella marca lì, Old Flag. Capito? Io mi sono sempre servito per tantissimi anni lì e devo dire che è un buon prodotto. No, no, mi fido. Mi fido dell'esperienza, giù. Ok. Sì, perché magari vai da Bricome, chissà poi cosa ti consigliano. Intanto le vernici sono più o meno, anzi forse costano anche di meno la famiglia, perché ho notato tanta gente dice da Bricome si risparmia, sì, si risparmia in certe cose, in certe altre si fa costa di più anche. Tipo ad esempio, tanto per fare un esempio così al volo, una cosa che mi viene in mente adesso, una serratura di sicurezza, quella con le aste da applicare sopra, non interna, no? Perché esistono anche interne, quelle da applicare con le aste abbastanza grosse, eccetera. Da vedere cosa intorno ai 75 euro una serratura si mandasse con scrocco anche, mentre invece da lì come costa 100 euro, tanto per ditene una, no? Questa è una delle tante cose, poi non parliamo di maniglie, eccetera, perché si sa, è così. Sì, ci sono delle cose che costano di meno da Bricome, però a riguardo di ferramenta, parlando di cosa come si deve, costa probabilmente di più di quanto costa la Palmieri. Sì, anch'io quando lavoravo il ferro alluminio ci servivamo sempre da Palmieri, quando era ancora lì al ponte di Rosello. E poi era sempre abbastanza fornito, qualsiasi tipo di serratura, viti e cose varie. E anche serratura di sicurezza, mi sembra che avesse le motura, piazzavamo noi quelle motura, non so se ce l'hai presente, o le potent. Sì, le motura, io prendevo sempre le motura, anche perché per dare la possibilità magari un domani a un cliente che poi fa solo lavoro, eccetera, perché delle motura trovi anche i ricambi interni. E dunque uno arriva lì, si compra la mappa e supponiamo il caso, prende la chiave, non sai più cosa fare, e prende la serratura, la togli, vai da Mondapalmieri e ti cambiano la mappa, e te la cambiano lo stesso e hai le chiavi nuove. Però in quel caso lì dovresti comprare la serratura intera, tu vedrai, ma la chiave, la mappa costa lo stesso, certo che costa, però non costa mai quanto è tutta la serratura intera, sempre che la serratura sia buona, sia poi tutta arrugginita, che è una vergogna tenerla, allora l'altro discorso, uno se la cambia e ciccia. Però se la serratura è buona, in buone condizioni, è solo perché hai perso la chiave, vai alla famiglia, la bottura, ci sono i ricambi, mentre invece non ci sono per altre serrature, un ricambio. Sì, anch'io quando ho acquistato la casa dove abito adesso, la prima cosa che ho fatto è ho cambiato la mappatura della serratura. Infatti ho ancora l'originale, ho ancora la vecchia con tutte le chiavi. Per sicurezza, più che altro l'ho cambiata. Certo, se c'era qualcun altro che ha la chiave ancora, figurati, hai fatto bene a cambiare la mappa, certo. È così, infatti, che si fa, già lo credo. Vabbè, dai, comunque. Oggi, ad esempio, noi vediamo tanti fotoncini e blindati che ci sono lì da bricole, 300 euro. Ma come fai tu a comprare un fotoncino blindato? Ma secondo te quello blindato è? Ma cosa mi stai dicendo? Quando la stessa la serratura, sei fotoncini blindati, ma fotoncini che costano 4.000 euro, però se lo vedi in Dio, costano 300 euro solo la serratura. Quelli sono fotoncini blindati. Come una volta c'era la rivendita, c'era in via Giorgio Arturi a Sassari, oppure quelli che facevo io, che facevo fare la struttura di ferro in legno, da fabbro, no, per dire, e poi le rivestivo io in legno e le rappresentavo esistente, supponendo caso che nello stesso pianerotto ci sono due porte uguali, per non sfigurare l'una diversa dall'altra, allora utilizzavo la porta esistente e all'interno ci facevo una doppia porta da applicare sopra di quella, naturalmente sostituendo anche il telaio eccetera eccetera, però esternamente la porta come quella che avevi di fronte nell'appartamento di fronte, e poi diventava di spessore, diventava intorno a di spessore una bomba, ci voleva la bomba per aprirla sopra, con la serratura interna e tutto quanto, e sempre con le aste, chiusura sotto e sopra, chiusura centrale eccetera eccetera, per dirti, no? Si sa, e oggi tu un fotoncino, vai lo trovi, 300 euro, la bricola, blindato, blindata lì dove fa, carità. C'è qualcuno che vuole entrare? No, se l'avevo sentito qualcosa sotto. In campagna io cosa ho fatto? Mi ho fatto fare delle lamiere con la misura della parte interna, diciamo, delle facciate interne del portone, e le abbiamo tutte avvitate. E poi sopra ci ho applicato questa serratura della motura, sia sulla parte mobile che sulla parte, diciamo, semi-daniele, anche se apribile. E poi ho messo delle cerniere blindate, un po' robuste. E ti dico che è venuta una bella storia, dai. Break. Registrato il break, sì, ma in effetti è così che bisogna fare, però quando li facevo io, intanto il telaio era di ferro sempre, no? Poi all'interno ci mettevo il coprifilo che copriva tutto, sempre quello, non si notava nemmeno che era di ferro, e poi aveva il ferro che entrava nel pavimento, anche il telaio, perché sai cosa succedeva? Che i ladri, vedendo il portone blindato, non si prendono la briga di scassinare la porta, allora andavano con un cric di macchina e con un listone tagliato a misura e mettevano dal telaio della porta o dalla porta stessa, proprio tutta da un fianco per terra, col cric e col listone puntato all'altra parete di fronte nel pianerotto, girava il cric e quello piano piano e ti scardinava tutto il telaio, la muratura, mentre invece se c'è il ferro nel telaio di ferro che entra nel pavimento, il pavimento non si sposta di sicuro fra facciamo entrare il break, avanti break. Sì, buonasera a tutti, Gianni doppio rumo. Ciao, ciao Gianni, ben entrato. Mi sono spiegato Franco. Saluto, mi ha perso il nominativo perché mi stava scrivendo il telefono di chi è entrato. Allora, buonasera, avanti ancora. Ciao Franco, Gianni doppio rumo, dai. E come mai state parlando di porte blindate? Cos'è, qualche porta hanno aperto? No, negativo già, non ti stavo riconoscendo con questa modulazione. No, così, piano piano, parlando dalle vernici siamo andati a finire i portoncini, così. Fortunatamente non abbiamo niente di cui parlare. Avanti Gianni ancora. Solo la camera ecco ti mancava. I discorsi sono rumori, c'è sempre da imparare in tutto, no? Poi c'è Mastro Giulio qua che su queste cose è un artista. Io stavo ascoltando, sì, ho sentito il trasparente, roba del genere. Stavo facendo roba ma mi stavo ascoltando. Ma hai cambiato microfono? Qualcosa? No, con questo sono con un altro apparato. Tonco. Ok, quindi qua le mie orecchie funzionano, là. Sì, questo qui è il magno. Cappa, no, si sente sempre l'effetto eco, quello che è sempre, dai. Però si sente che è qualcosa di diverso, i toni sono leggermente più acuti, più alti questi. Sì, vabbè, quello è la mia prerogativa per l'eco, mi è sempre piaciuto, là. Andave, dai, riprendi Giulio, buonasera. Ok, ciao Gianni, buonasera. Sì, stavo parlando del me, un po' di tutto già, tanto per tirare avanti e far passare la serata. Sì, è così, Franco, stavo dicendo, non so se mi hai seguito poc'anzi, che il telaio bisognerebbe far entrare per terra nel pavimento col perno, in modo che col click non te lo scardinano, perché il ladro entrava dal fianco del portone scardinando il telaio col click, un listone lungo da parete a parete, nel pianerottolo, e col click girava e scardinava, capito? Mentre invece se c'è il perno che entra nel pavimento, il pavimento non lo sposti di sicuro e dunque non ce la farebbero aprire così, perché loro quando vedono che c'è da lavorare troppo nella serratura non ci lavorano, difficilmente ci lavorano. Allora adottano questo sistema, capito Franco come fa le rade? Sì, e poi quello click è anche abbastanza silenzioso, cioè non dai colpi, non dai botte. Sì, no, da mia parte c'è la serratura chiude sia la centrale, poi c'è la H, una specie di H, diciamo, che forma la porta che apre, e anche la parte che è semifissa, anche lì c'è un'altra H che chiude sempre, sia dalla parte delle cerniere, sia dalla parte del montante centrale, sempre sia sopra che sotto il pavimento, dai. Appunto, quando sei entrato nel pavimento la porta è tranquilla e sicura, cioè perché non fanno molto rumore e fanno poca fatica, perché devi solo girare il click, deve farlo girare e quello spinge, sai, con un listone abbastanza consistente, e spinge e scardina dalle gaffe, mentre invece se c'è il perno che entra per terra le viene un po' male a scardinarlo, perché loro scardinano, allargano e entrano dal fianco, capito? E come fanno? E l'abbiamo adesso l'hanno studiata bene tutti. Va bene, dai, avanti Gianni. Un attimo sulla cellulare. Il capo è già impegnato. Sì, mi ricordo una volta una mia madrina qui in Costa Trinità. Il portone mi sembra l'ha trovato intero, proprio appoggiato nel pianerottolo. Sì, guarda che, ripeto, il ladro studia tutto e riesce ad ottenere sempre quello che pensa. Mentre invece quando c'è da lavorare molto non ci provano nemmeno, perché sai come adottavano il sistema? Si mettevano magari in due persone, prima pedinavano i padroni di casa, quando vedevano che non c'era nessuno a casa, allora agivano in questo modo, o col telefonino, o con la radiolina, sai, eccetera, in tasca, uno fuori nel portone, avvistando sempre l'ingresso del portone, e l'altro su al pianerottolo lavorando. se vedeva che qualcuno entrava, allora dava il segnale e quello là metteva e scendeva tranquillamente nelle scale, senza, così facendo finta di niente. Ecco come lavoravano, tu mi dirai, ma e uno si mette a lavorare a farlo così, perché si mettono in due e si trasmettono col telefonino oppure con la radiolina portatile, sai, anche di quelli da bambini, quelli blondi, eccetera. E uno non mica sta arrivando gente, allora quello smette e via, e ciccia. Ecco come fanno sopra, capito? La studiano tutto per tutto. Sì, sì, poi come dici tu, se c'è un appartamento più facile per entrare, preferiscono sempre entrare in quello dove c'è meno da fare, dai, meno problemi da per entrare. Beh, loro devono lavorare sul tempo, se devono, soprattutto in maniera silenziosa più possibile, per cui è così, perché si sa, il ladro lavora in quel modo. Va bene, tante volte cosa succede? Uno va lì, prende la chiave e non può entrare, ecco qual è il problema, comincia a essere già un problema, quando c'è il portone blindato così, con una serratura del genere, si incomincia a essere un pochino problematica, ma la situazione, se prende la chiave e se non c'è l'altra del ricambio per poter aprire, o perlomeno se ce l'hai dentro casa e non ce l'hai a portata di mano. Allora a quel punto lì cosa fai? Tagli la metà della mappa, se si blocca per dire la serratura, perché sappiamo che si blocca anche, no? E non apre. Allora prendi la metà della mappa, la tagli dalla chiave, perché sono chiavi che hanno due mappe, no? Una parte e l'altra. Le tagli, entra la chiave e riesce ad aprire, riesce a entrare dentro casa. Tipo ad esempio quando una donna esce magari da casa, un attimo parla con quella di fronte, sta parlando, magari un colpo di corrente, gli chiude il portone e rimane fregata. E dunque, allora in quel caso lì si può aprire, però se c'è solo lo scrocco basta anche una negativa, basta di quelle negative che ad esempio da GX, no? Entra quella e riesce a aprire lo scrocco, non riesce ad aprirla, ma ci sono tanti trucchi che uno se l'altro li conosce tutti e per cui sa come fare, capito? Sì, addirittura li ho visti aprire anche con una specie di, con la carta di credito, una specie di plastica un po' rigida, se c'è solo, diciamo, solo la cricca, Eccomi. Ecco, sì. Sì, beh, certo, anche con la carta di credito, un pochino se riesce a piegare, dalle battute, certo, ma questo quando c'è solo lo scrocco, se c'è la mandata non c'è niente da fare, mentre invece se c'è la mandata, perché magari hai preso la chiave e tagliandone la mappa riesci a aprire ugualmente. Però sei costretto a chiamare con piedi, e quindi o spaccano oppure entrano dalla finestra, se la finestra chiusa se la spaccano, almeno il vetro si spaccano, poi entrano dall'interno nell'appartamento e aprono da dentro, sempre che ci sia il pomo da usare. O perlomeno le dici, guarda che ci sono le altre chiavi, le chiavi del ricambio appese in tal posto. E il pompiere entra, apre e ciccia. E ti paghi 250 euro, ti paghi l'intervento. Si paga pure. Bisogna stare attenti, dai. Avanti, chi stava entrando? Ciao a tutti, Gianni sono. Stavo cercando di sistemarmi il telefono, ero in quel rixio, però nel frattempo stavo cercando di risolvere la situazione. Comunque risaluto Giulio, ciao Franco, ciao anche a te Gianni Roppio Room, e niente, dai, ben ascoltati, avanti già. Mi sa che Gianni è ancora al telefono. Ciao Gianni, comunque, lo profeta, hai risolto poi? Sì, vabbè, chiaramente ho perso tutti i dati, non c'era tantissimo, però quando succedono cose di questo genere gira sempre un po' le balle, quindi cioè, il disagio, la rottura di scatole, insomma, e quindi insomma, non ho trovato di balle. Volevo chiedere una cortesia a Giulio, siccome chiaramente ho perso il suo numero di telefono, se cortesemente appena può mi può fare uno squillo, così mi rimemorizzo il suo contatto, ok? Grazie. Certo, oppure scrivi, oppure prendi il telefono, te lo dico qui a voce, dai, non c'è problema, no? Non me ne frega niente, te lo dico qua in frequenza. Prendi il telefono, dai, ce l'hai? Penso di sì, 1, 2, 3, io conto fino a 5, dopo ti do il numero, 1, 2, 3, 4 e 5, 1, 2, 3, 4 e 5, immagino che il telefono ce l'hai, 388, 490, 79, 99. Ok, grazie, ricevuto. Prova a vedere un po' se hai fatto bene, prova a farlo scaldare, se no te lo faccio scaldare io. Vieni avanti fra che memorizza, dai. Poi mi dirai quanto è successo, perché la prima parte del discorso vi siete un po' sovramodulati con Gianni, doppio rumo. Avanti Gianni, doppio rumo. E a fra, perché devi sapere che a me mi chiamano doppio rumo e a lui Gianni, se no ci confondiamo. Tu hai chiamato Gianni, io pensavo che stia chiamando il profeta e non ho risposto, capito? Così quando ci sono io con Franco di Sorso, insomma è un casino, eh. E invece se ci chiamiamo per nominativo si può, capito? Si può capire a chi ti stai riferendo, è quello che c'è. Andava bene, non è successo nulla. Guarda che cosa è successo, prof, non ho capito perché hai le scatole girate. Stavo spiegando. Scusate un attimo, sì, ok, dai, è uno squillino, forse Giulio. Ok, ricevuto. Allora, mi si è. Praticamente ho un telefono che non è Android, praticamente è un vecchio telefono della Microsoft. In sostanza praticamente la Microsoft non sta più rilasciando, ha smesso di rilasciare tutti i vari aggiornamenti e quindi di conseguenza anche determinate applicazioni non mi funzionano più. Quindi ho avuto difficoltà con WhatsApp. E niente, stavo cercando insomma il modo insomma di cercare di metterlo a piombo, mi si è impallato e praticamente ho dovuto fare un casino per insomma per, chiaramente come l'ho fatto ripartire si è resettato tutto e niente, adesso insomma devo valutare tutto da capo ed è una rottura di balle. Quello sì, devi resettare tutto. Ho capito, ma guarda che i telefoni hanno una durata, sono fatti apposta per cambiarli, hanno una durata di 5 anni, dopo 5 anni cominciano a dare problemi, si impallano, si bloccano, si fanno. Io c'avevo l'S3, era un telefono bellissimo, eppure andava bene, poi di colpo si impallava eccetera eccetera, mio figlio me l'ha tutto resettato bene eccetera, è andato bene per un periodo, poi di nuovo si bloccava, alla fine l'ho messo da parte e me ne ho comprato uno nuovo. Con Huawei mi sono trovato molto bene. Sì, qua vabbè, il discorso è che la Microsoft qualche anno fa aveva comprato la Nokia e quindi avevano fatto un praticamente la concorrenza di Android. Adesso la Nokia praticamente si è staccata da Microsoft e quindi praticamente non si trovano più gli aggiornamenti del telefono e quindi di conseguenza hai anche difficoltà a tenere aggiornate le applicazioni che avevi installate, capito? Quindi tutto qua, perché il telefono cioè è funzionante, il problema è adesso su internet si trova del materiale, però bisogna essere molto come si dice, molto infarinati a livello di tecnologia, cioè a livello di informatica per riuscire riuscire praticamente a salvare le cose. Io ho un'infarinatura, ma non sono così bravo, capito? Quindi sto cercando di farmelo andare bene, tutto qua. Ok, non voglio monopolizzare niente. Ok, avanti Giulio. Ok, no, non c'è problema, figurati. No, non ci facciamo caso. Quando c'è da fare un discorso e completarlo va anche bene, no, no problemi non ce ne sono. Gianni, figurati. Sì, dai, mi allontano un minutino e vado nel piccolo QTH, un attimino solamente. Vai Gianni Del Monte. Sì, anche Franco si è allontanato, quindi restiamo solo io e l'Ubroffetta, dai. Sì, vabbè, dai, piano piano, perché tanto poi se ti prende nervoso riesci a capirne di meno, Quando sei calmo devi fare questi lavori, perché devi avere molta pazienza, anche col computer è così. Aspetta che rispondo, che palle, dai. C'ho il cellulare, mi chiamano al telefono di casa, aspetta. K. C'è qualcuno? Massimiliano, buonasera, ciao, ben sentito. Oh, ciao Gian, Tutto bene, ascolta, tu ieri, sei entrato, hai fatto un paio di entrate, poi non so, magari ti sei rotto le balle e te ne sei andato. Siccome ho cambiato l'antenna ieri mattina, ho messo la boomerang, quella grande, volevo sapere se giù da te era... Insomma, se era migliorato il segnale, se avevi un referto da darmi. Allora, olio e acqua tutto a posto. Il tuo referto è da 7 si è passato a 9. Ok, grazie mille Massimiliano. Sì, ho messo la boomerang che mi ha prestato Daniele. E quindi niente, ho visto che funziona bene e siamo contenti, dai, avanti. Sì, sta andando alla grande, anche la radio va bene, è tutto a posto. E tu, rientrato adesso? Beh, io sono rientrato già da un po', però mi sono fatto la doccia e siccome sono un bel stanco e ho mal di schiena, e mi sono messo un po' nel divano, mi stavo rilassando. Così vuole. Bene meda. Adesso c'era doppio room che aveva una bassa, poi c'era Franco, lo stesso da Sassari, anche lui forse è attaccato al telefono, c'era anche Giulio, ma credo che piano piano rientrino, adesso vediamo un po'. Franco? Io sono rientrato. Ciao Massimiliano, mi senti? Rientrato. Ciao Massimiliano. Ciao Giulio, ciao Franco, buonasera, ben ascoltati. Ciao Massimiliano. Oh, ciao Gianni Doppio. Capella la bassa, mi hanno telefonato per vedere se volevo fare una visita per l'udito. Ho detto no, grazie a Dio ci sento bene. No, vabbè, quelle sono quelle telefonate così, là. KK, vediamo un po' il mio vicino di casa, avanti. Ok, ciao Massimiliano. Bene, ben entrato. Sì, stiamo chiacchierando già da un bel po' di tempo, là. Abbiamo iniziato da presto. Cazzo, sta già le 7:30 sono quasi. Abbiamo iniziato che erano le 4:30 con Daniele e poi un po' con Gianni e poi adesso ci ritroviamo, siamo ancora qua. Vabbè, dopo 3 ore, meglio così, dai. Riprendi Massimiliano. Sì, vabbè, non è che a parlare alla radio ci siano orari, perché ho visto che qua la gente alle 7:30, massimo alle 8, molla tutto e poi non rientra più nessuno. Va bene, no, io come diceva Gianni, sono rientrato già da un po', però mi sono fatto la luce, mi sono messo nel divano, che sono un po' mal di schiena. E ieri mi ho fatto un lavoretto qua a casa, mi ho sbugato un mezzo buco di terra e mi ho preso una pastiglietta adesso. E stavo iniziando a farmi male troppo la schiena. Quella blu. Chi ne ha parlato sotto? Chi era avanti? Ho detto quella blu. No, per quella blu ancora già sono a posto, grazie a Dio. Più avanti giù e più c'era di più, capito? Buonasera. Buonasera Tino, scusate se entro a gamba tesa, come si dice. Giulio, ma mi hai fatto uno squillo per caso? Sì, ti ho mandato, però non volevo il numero di telefono, te l'ho mandato. Cioè, ti ho fatto uno squillo, adesso ce l'hai. O lo vuoi proprio, ti mando su WhatsApp, oppure vuoi tu, ti mando un vocale su WhatsApp. No, se, cioè, se mi hai fatto uno squillo va bene così, ti ringrazio, così, così lo memorizzo bene. Voglio chiedere anche una cortesia a Massimiliano, visto che c'è il mio numero, vabbè lui non lo sa, mi si è incasinato il telefono, quindi se per gentilezza mi fai uno squillo così mi rimemorizzo anche il tuo, ok? Grazie. Avanti Tino. Dai, dai, sono entrato a salutare che sto uscendo, che devo andare fuori, devo uscire da casa. Giusto per un saluto a tutti quanti, dai. Ciao a tutti, voi bene la sveglia. Sì, ah, ciao Tino, anche tu in farmacia stai andando? Sì, beh, io lo sai, mi tocca, no? Poi in realtà sta avanzando. Va bene, là, faccio il giro a farti salutare, avanti di Gianni. Sì, là, ciao Tino, ben sentito, dai. Non so se c'è il rischio o se stai andando via. Anda bene, anda bene. Cava cava, riprendi un profetta. Aspetta che Massimiliano mi... grazie, mi so che casinetti, vabbè. Stavo dicendo Massimiliano, appena puoi se riesci a farmi uno squillo così mi memorizzo di nuovo il tuo numero, ok? Va bene, dai. Avanti Giulio, dai. Ok. Intanto saluto a Tino, ciao Tino. E poi mi dici, sta facendo bene Antonio poc'anzi, stasera quando l'hai sentito, quando ti sei spostato, com'era? Tino, ci senti? Sì, stavo aspettando i miei. Sì, diciamo che è attaccato a me Antonio, però stava andando maluccio, perché c'è l'antenna ancora, quindi deve verificare un pochino tutto di quello che hai detto tu e poi vediamo, sono toccato a darci un altro pezzo di manto qua, mi sa che è un pezzo ancora sopra il tetto. No, niente, devo uscire, sono dipezzata oggi, quindi devo mollare, devo andare via, dai, dal caso a domani. Ricami saluto a tutti, ciao, riprendi Giulio. Ok, sì, d'accordo, vai. A domani allora, dai. Grazie per essere stato a salutare, ci sentiamo domani eventualmente. Avanti Gianni, doppio rullo. Che dire, sono accorto di argomenti stasera. Niente. E quindi il profe, il telefono nuovo vuole? No, mi sto risalvando i numeri, no, il telefono ce l'ho, sto cercando, te l'ho detto, adesso mi devo azzuffare per cercare di farlo andare discretamente, dai, non ci devo fare altro, però quelle due o tre cose devo avercele, capito, come tutti gli altri, poi per le altre applicazioni non me ne ha fatti nulla. Ah, ti ho mandato il numero, il 4 rosso e finale. Capa ricevuto, grazie. Quando hai bisogno non chiamare, non avevo preso. Ma non c'è neanche Franco. Sì, capa, perché era Gianni, anche il mio numero hai perso, Gianni, numero fetta. Aspetta, mi sto memorizzando quello di Massimiliano, al limite dopo mi fai uno squillo anche tu, ok? Capa, fate una copia, poi fate un backup, se lo puoi fare, da qualche parte. Una cosa, abita di un'agendina, scrivetele a mano. Ma più sicura, come ai vecchi tempi. No, guarda quello lo becchi. Quante volte l'abbiamo perso, suga? Sì, vabbè, ma adesso ci sono tanti rimedi, con l'elettronica che c'è, all'avanguardia, le recuperi tutti, ma a volte quando ti capita che magari ti memorizzi qualcosa sul telefono, e magari poi il telefono va in palla, quello non lo so, cioè, già riesci lo stesso a recuperarlo, però devi stare romperti da scatto. No, mia moglie, l'S7 Edge, si è bruciata la scheda madre, ha perso tutto, non si può fare più nulla. Io lo stesso, io ce l'ho uguale, l'Edge, l'S7, era uscita una riga nel display qua, in tutto il display, in verticale, una riga viola mi è uscita, meno male ce l'avevo ancora in garanzia, ma ti sto parlando di un paio d'anni, L'ho mandato a fare, ma l'hanno resettato tutto, non vedo più nulla. No, questo è tutto, adesso stiamo cercando una scheda madre per ripararlo, perché è un peccato, il telefono era, a parte che è un buon telefono, però era nuovo, c'era nuovissimo, aveva qualche anno di vita. Non conviene più quelli rigenerati adesso, con un anno di garanzia, se tu bigli nuovo, a 200 euro. Vediamo cosa mi spara questo qua, l'unico è trovare un altro difettoso, tipo senza schermo, e recuperare la scheda madre. Sono 30, 40 euro, 50 euro, però ne vale la pena, dai. Avanti Giulio. Ok. Ne aveva tempo fa, un paio di anni fa, ne aveva comprato uno mio fratello di telefono, nuovo, nuovo di Zecca, con la strato, tutto confezionato, tutto. Dopo che ce l'aveva una quindicina di giorni, si è reso conto che era un telefonino già usato. Evidentemente era un telefono che avevano preso, oppure l'hanno restituito, magari per cambiarlo, o non lo tempero, non lo so. Da cosa se ne è accorto? Perché era vuoto, però nel caso ha voluto che c'era un nome, c'era. Questo nome lui cosa ha fatto? Ha preso e ha telefonato a questo nome, a questo numero del telefono che c'era, no? E ha risposto questo tipo qua. Dice sì, io l'ho comprato e poi l'ho versato di nuovo e ho preso un altro. È ritornato a quel negozio, a un momento se ne mangia i commerci eccetera. Cosa avevano fatto qui? Si avevano venduto un telefonino già usato per il nuovo, invece era un telefono già di seconda mano, era nuovissimo, era ben chiaro, usato forse una decina di giorni, 15 giorni, non di più. Però si è accorto di questo coso qua, di questo nominativo che c'era in questo numero. Se è ritornato, già l'ho cambiato subito immediatamente, se non mi cambiasse il telefonino subito mi sto anche denunciando. Per dire no, cosa fanno Gianni? A te le immagini, l'hanno magari, c'erano magari delle telefonate, l'hanno svuotato, però se ne hanno dimenticato uno di svuotare di numero di telefono. E dunque da quando si è accorto mio fratello che il numero di telefono era già usato, roba di 400 euro, una cosa del genere, Gianni. A questi bisogna fare subito pubblicità. Bisogna dire di che ditta è, così non si va più. Ma te immagini che è stata di disonesti, ragazzi, eh? Delinquente. Vabbè. A parte, ma si vedia. Sì, un secondo che mi sposto di un canale che voglio controllare, un secondo le stazionarie, scusate. Via. Ha capito giù, bisogna fare pubblicità contraria a queste persone qua, perché così almeno sappiamo che persone sono e non ci andiamo nemmeno in quel posto lì. Arrivati a questo punto, cioè, non ti puoi fidare manco di nessuno. Allucinante, vai in negozio a comprarti il nuovo e ti danno con la seconda mano. Può essere nuovo quanto vuoi, ma non è mai nuovo. Se a seconda mano non è nuovo, te lo devono dare di meno. Ti possono proporre, dici, già abbiamo uno che è quasi nuovo, lo diamo a seconda mano, te lo diamo qualcosa in meno. Se tu ci stai, ok. Se no glielo lasci. Però non così, no, così non va bene. E infatti sarebbe più onesto appunto avvisare la persona, guardi, noi abbiamo questo, è nuovo, è stato usato per dire 15 giorni, le facciamo uno sconticino, se vuole, basta, e uno poi decide se prenderlo o meno, ma che tu me lo fai passare per nuovo quando invece il telefonino è già stato usato, non va bene, o perlomeno anche se erano visti, vuole essere ben chiaro, che non si vedeva assolutamente niente vedendolo così se era usato o meno. Però si è accorto da questo numero che si è ritrovato, lui furbescamente, macchina del mappo, mio fratello è un tipo che è un tipo abbastanza sveglio, ha preso e ha telefonato a quel numero. E dunque ne ha parlato con questo tipo e questo gli ha confermato, sì, è il mio telefono che avevo, che io poi ho versato e me ne sono comprato un altro. Avete detto, sei ritornato lì, mamma mia! Perché prima nel primo tempo non insistevano che non era vero, no, è nuovo il telefono, ma puoi pensare, vedi che è confezionato, con tanto di garanzia, tutto, capita, ma davvero, a momento se li mangia, oh già, vai Franco! Sì, sì, anch'io qualche anno fa avevo preso un Sony, mi ricordo, e non ci aveva soddisfatto particolarmente e l'abbiamo restituito. L'importante è che non superi i 10 giorni, se non sbaglio, c'è una legge che te lo permette di fare. Il telefono c'è senza neanche un graffio. L'importante è che tu non devi superare, non so, tot minuti di conversazione. Se tu lo usi più di tot minuti non te lo accettano più come restituzione, capito, Giulio? Ok, sì, ho capito. Ah, questo se ne ha accorto, se ne ha accorto subito, se ne ha accorto, anche perché gli hanno cambiato, la famiglia. Te lo credo. Però l'avrebbe denunciato, non l'avrebbe fatta passare liscia, assolutamente no. Ma no, perché lui aveva la testimonianza anche del primo proprietario di questo telefonino. E lui l'aveva comprato per essere nuovo, non di seconda mano, perché in realtà era di seconda mano questo. Lui c'è proprio a me che lo fregato, hai sbagliato, con me non mi freghi di sicuro, e così è stato fatto fregato. Avanti, rubra fetta. Eia, ok. Per Franco, sì, se vuoi farmi uno squillino così mi salvo di nuovo il tuo, così e niente, almeno a questo giro, per questo giro siamo a posto, poi più avanti come sentiamo gli altri aggiorniamo di nuovo la rubrica. E vabbè, sono sempre rotture di balle queste cose qua, il discorso che insomma adesso questa cosa qua, quella che vi ho descritto io poc'anzi, non ha niente a che vedere con, cioè è proprio un sistema operativo tutto suo che praticamente i produttori non stanno più supportando, quindi adesso se riesco ad ovviare il problema tramite le informazioni che ci sono su internet, ebbene, se no ciccia, me lo tengo non aggiornato, vuol dire che non ci stallo niente e si rabbiglia in culo. Detto proprio in francese, così, molto, con molta nonchalance. Ok, avanti Fra. È preso, Sta squillando? E poi entra la segreteria però. Squillato, è arrivato, dai. Ma perché si è messa la segreteria subito? Tranquillo, è arrivato, non tentare di più, dai, cioè, basta così. Sì, ma due volte subito o hai chiuso tu oppure è entrata la segreteria, non lo so. No, c'è un blocco chiamata, finché non registro il nome nella rubrica, praticamente blocca, è un'applicazione che serve per evitare le chiamate moleste, mi. Sì, ho capito. Tipo call center e cose varie, dai. Perché non te lo installi già WhatsApp? Te l'ho spiegato, ma sì, è un telefono della Microsoft, e praticamente non esistono più aggiornamenti, e quindi se non faccio gli aggiornamenti della Microsoft mi crea problemi con alcune applicazioni, e una di queste è WhatsApp. Va bene, dai signori, io vi lascio. Sono arrivate le signore qua a casa, quindi devo lasciarvi, no? Ok, saluto a tutto, Gianni, Franco, Giulio e chiunque fosse in ascolto nel canale 10, no? Buona serata e buona continuazione a tutti. Ciao Massi, ci sentiamo, dai, buona continuazione. Ciao Massimiliano, spero che abbia finito lo scavo, io ti passo la mal di schiena, buona serata, buon tutto e salutoni, avanti Giulio. Ok, ciao Massimiliano, ciao, grazie per essere entrato a salutarci, ci sentiamo prossimamente, dai. Ok, ciao Massimiliano, avanti Lombrefetta. Ehi, ciao Massimiliano, ok, dai, alle prossime, all'improvviso come sempre, dai. Ok, buona serata e buon tutto. Avanti doppio room. Sì, vabbè, comunque adesso è risolto anche con l'antenna, sta andando bene, dai, bella. Ci vuole un minimo di classe per uscire meglio. Andare. E anche la radio è bella, ti fa una bella radio, è amplificata ma non camuffata, come certe radio che quando le amplifichi si camuffano. Questa qui è proprio chiara, sulla radio limpida. Bene, stamattina ho risceso giù l'antenna perché diciamo che era l'ho fissata all'80%, nel senso che l'ho messa per testarla, quindi stamattina l'ho tirata di nuovo giù, ho isolato il PL, l'ho tutto isolato in modo che non prendesse acqua e ho stretto i bulloni, ho stretto tutti i dadi e i bulloni, l'ho rimessa nella posizione nella posizione originaria e niente, quindi vedo che sta, non è cambiato niente, sta andando tutto come si deve e ne siamo molto contenti, a parte la rottura del coglione del telefono. Avanti giù. Ok, sì, e beh certo, no, adesso vediamo bene a Puglia, va bene così come già. Sì, Gianni, anche Daniele si è attrezzato, anche Daniele ha cambiato l'antenna, per cui anche lui ha migliorato sia di segnale e anche di orario, giustamente. Avanti, Gianni, dopo lui. E che antenna ha messo Daniele? La Energy. Ah, quella fina, quella ho capito. Ma quell'antenna va bene come segnale, come tutto, ma è molto leggera come antenna, molto... non è certo per la mia zona, perché qua tira vento, con quell'antenna lì, a parte che farebbe rumore, come tira il vento, come si piega e cosa, farebbe il fischio eccetera eccetera, poi è troppo debole come antenna, ma magari in quella zona che tira meno vento va anche bene. Intanto c'è la, per prendere la ringhiera della finestra di casa, per cui già è anche riparata, se vogliamo. Poi ha fatto un affare, dunque ha fatto un affare perché è usata, capito, l'ha pagata pochissimo e dunque ne sta approfittando, ne ha approfittato a comprarsela, ma già va bene, ha aumentato abbastanza il segnale e va bene, nonostante che è sempre ritardata al solito posto, cioè sulla ringhiera della finestra. Tutto lì. Vai Franco! No, anche qua è iniziato, prima mi arrivava un Santiago 2-3, poi ha cambiato un'altra antenna, forse arrivava a 6-7, oggi era, mi sembra 9-5-9-10, doppio rumo. Sì, ma va bene quell'antenna, come segnale ti ripeto, va bene. Non è robusta come altri tipi di antenne che se ti dà il vento si spezza subito. Per dire a Porto Torres, non l'Energy ma addirittura, come si chiama l'altra, se non me lo ricordo, che costa più di 200 euro, mi si è spezzata col vento, col maestrale. A proposito di vento, mi sa che si è iniziato a caricare il vento. La Key Master, adesso mi è venuto il nome, non mi veniva, a coso a Tigre di Porto Torres se l'aveva spezzata. Quella è metroregina, lo so, eppure non ha resistito al vento, capito? Siccome qua quando c'è maestrale tira di brutto, perché ce l'ho di fronte il mare, maestrale tira di brutto qua, infatti tant'è vero che c'ho 9 tiranti nell'antenna io. Anche l'antenna hai tirantato o solo il palo? No, il palo e basta, l'antenna è una Moldova 5 ed è molto resistente come antenna, è molto grossa, pare nei tubi d'acqua. Capo, più robusta della Moldova 1 è? Più o meno sono uguali, Mantova 5, Mantova 1, come si chiama, la Turbo sono più o meno uguali. Ecco, vabbè, avanti Gianni, il profeta. Eia, dopo, sì, diciamo che si è alzato un po' di vento, dopo salgo a controllare la mia, ma non ci dovrebbe essere problemi, però a scanso di equivoci ci butto l'occhio, dai. L'hai tarata? Non ti ho capito, Fra. Se poi l'avevi tarata. In che senso calata? Non ti capisco. Si è regolato le stazionarie. No, ancora no. Appena Claudio mi passa lo strumento, gli attacchiamo l'accordatore, come ti si chiama, lo strumento, e vediamo un po' come siamo messi. Se qualche giorno, se vedi che tarda molto, stacco il mio accordatore e lo proviamo senza accordare e vediamo cosa c'hai di stazionario. Spezzoni ne hai? Ma spezzoni di filo dici? E gli spezzoni già pronti, quelli da misura, per collegare l'accordatore, ci vuole uno spezzone. C'ho capo, ma mi mancano i PL. Ma porto uno dei miei, si prova, se vedi che tarda ancora lo facciamo noi, dai. Sta andando, poi vabbè, quella diciamo che è una cosa di fino, dai, giusto per avere delle certezze che chiaramente lo strumento riesce a darti. E niente, vabbè, adesso non insomma, va bene così, dai. Appena ci sarà l'occasione facciamo una verifica completa. Come vuoi, dai. Avanti Giulio. Ok, sì. Certo, una controllatina con l'osmetro è già sarebbe meglio controllarlo per vedere se ci sono stazionari o meno, ma non credo che stavo usando prima la lieve, per cui dovrebbe andare bene ugualmente. La lieve mi aveva detto che era intorno a 1,2, 1,3 con l'antenna lì, perché è sempre quella. Ah no! Mi sembra che era quella, sì, adesso non me lo ricordo, ma quando lo usava lui dice che andava così, ma dovrebbe funzionare ugualmente. Comunque, controlla per quello sul baracchino, toccalo di tanto in tanto, se senti che sta scaldando eccessivamente, allora sai che ti devi fermare e farlo raffreddare, o dove ci sono le finali o Gianni, per cui per non rischiare troppo, almeno questo fin quando non si controlla con lo strumento. Ma suppongo che vada bene, dai, ehi, a voglia. Bene. Sì, la boomerang, Gianni, ha piazzato la boomerang, ha piazzato quella con un antennino, un quarto d'onda, ma va bene, a me ne arriva 9,5 qua, perciò già va bene, dai. Almeno, sempre meglio di prima. Prima c'aveva l'antennina della macchina era un po' più scarso come segnale. E infatti da quando ha cambiato l'antenna anche la radio ha aumentato come volume. Va bene che adesso il microfono anche, e il microfono da palmo l'ha amplificato e dunque ha migliorato molto anche la radio. Più chiara, più forte anche, va bene, insomma, ecco. Diciamo che sta incominciando a mettersi a ruota anche lui, e va bene così, piano piano, non c'è fretta. Vai, lo più lungo. E io diciamo che anche la zona buona che c'ha lui, è una zona buona quella lì, è una zona centrale che c'è tutto libero, e quindi anche quello lo favorisce, ma va benissimo, per il momento da tutte le parti ho visto che lo sentono bene, quindi non c'ha niente da fare. È come a me, sono senza radiali, e la mia antenna va benissimo, 1,1 di stazionarie, e vedo che è bene. Che me lo fa fare cambiarlo? Sto male che vada, lasciando giù e rimetto il radiale, buonanotte. Li hai recuperati Gianni? No, non li ho recuperati, me li faccio io. L'ho già fatto. L'ho comprato praticamente l'alluminio da Bricomen. Ci vendono le verghe di alluminio, so la grossezza, vado, lo compro, lo faccio a misura, li metto davanti alla fine, li metto, visto quelli così che vendono, quei pirillini che vendono per mettere sotto le sedie, ci sono più piccoli, più grandi, io prendo quelli più piccoli, li metto un po' di colla a caldo e lo chiudo con quei pirillini, sembra fatta apposta, sembra che è uscita dalla fabbrica così. E il diametro quant'è? Stavi chiaro che lo sai, sì. No, me lo porto, mi porto sempre il pezzo appresso, per non sbagliare. Sono i normali radiali, sono quelli che c'è la Mantova 5. Adesso non so quanto sia di diametro, però li avevo fatto praticamente, prima li avevo messi quelli vuoti e non andavano bene, si sono spezzati, come le corna che andavano sopra si spezzavano. Allora ho provato quelli pini e ho fatto un buco che ho messo un bullone passante e sembrava che, e poi gli ho messo della lenza per grumi, per tenerli tirati, di modo che quando le corna vanno non li spezzano. Beh, lo sai che me l'hanno rotti lo stesso. E come cavolo hanno fatto? Si è rotta la lenza allora, si è marcita la lenza? Scusate un attimo, vado a dare un'occhiata all'antenna, torno subito. Siccome dove tu fai il buco per mettere il bullone passante più debole, come hanno spiccato il volo di lato si sono spezzati. Ok, c'è qualcuno che voleva parlare? Avete parlato un po' in due. Avanti Gianni, lo profeta. Forse volevo avvisare che si stava allontanando, non lo so. Giulio? Sì. Già, evidentemente è per quello che sono rotti, perché avendo bucati per passare il bulloncino, probabilmente è per quello che si è rotto di nuovo. Però fammi metterli già, se l'antenna è buona, per quale motivo non la deve recuperare? Per mettere un paio di radiali non è la fine del mondo, per cui c'è la fine dei sistemi e basta, adesso quindi c'è il tempo buono, sali, barbacci e c'è la fine di nuovo, così è sempre ottima. E poi ci metti quei cappuccetti appunto che stai dicendo tu, proprio per far figurare che è originale, dai. Già mi vendono quelli, no, non è un problema, quei cappuccetti di gomma. Bene, bene, bene. Però con questo sistema, anziché bucarlo il radiale per metterci il bulloncino passante, ho già, non puoi mettere la vecchia maniera come erano prima inizialmente, così almeno rimangono più forti, rimangono. Perché quelli sono da 8 mm, sono i radiali, dunque non sono molto robusti. A differenza del manometro turbo che sono da 10, sono tubi da 10 mm, sono più resistenti praticamente, è diverso il discorso. Va bene, va bene. Mi prendi Gianni di doppio lucro. Si è allontanato anche lui. Io vi ricordo, quelli della Matava 1 sono in vetroresina, giusto? Sì, quelli della Matava 1 sì, anch'io so che sono in vetroresina. E quelli è diverso, quelli si muovono e non succede niente. Ma quelli altri in alluminio, in effetti, quando si mettono i volatili, quando si posano sopra, quando spiccano al volo, c'è una spinta, c'è a un certo momento, se non sono tubi resistenti non è che regolo molto. Ma io ho visto, io ce l'avevo, l'ho tenuta piazzata 3-4 anni, sono andato a turbo e devo dire che intanto sono nuovi i radiali miei. E li ho tolti che non senza nessun problema, senza nessuna difficoltà, però sono da 10 anziché da 8 e sono fissati anche quelli con un bulloncino passante, sono fissati col soldato poi e ho visto che reggono a voglia, perché tante volte li ho visti anch'io, i piccioni sui radiali, ho visto che non me l'hanno mai rotto, anzi non me l'hanno nemmeno piegato. Erano più resistenti probabilmente, poi della Matava turbo però. Mi prendi qua? Eccomi. Capa Gianni, ben rientrato. Sì, io mi ricordo sono in vetroresina, quindi la Matava 1, non ho mai avuto problemi di rotture. È che adesso sono un po' vetrificati, non fa toccarli che ti pungono le mani. Però non penso che siano solo in vetroresina, ci sarà qualche cosa anche di metallo all'interno, adesso non ricordo bene. Avanti Giulio. Certo, ci sono i fili, sempre ci sono i fili, sottili e rivestiti in vetroresina, certo. Come era una volta anche la Gran Prima, una volta erano così, quelle dell'Alemme, però erano metà in vetroresina e metà in alluminio. E anche altre antenne le hanno fatte così, con doppio materiale. Vai Gianni. Sì, sono salito a dare un'occhiata, no, ma è tutto a posto, cioè, è una leggera brezza, proprio quasi, cioè proprio, non si può neanche chiamare vento, dai, cioè, ho visto che è stabile, tranquilla, il puntale, il radiale sopra in alto ondeggia appena appena, ma tutto nella norma, tutto normale, quindi, a parte che è leggerissima, quindi dove vuole andare, è solida, va bene così, avanti fra. Sì, poi essendo sottile taglia bene l'aria, il vento, quindi non è un antennone come questa che la pesca da 4-5 cm alla base, dai. Dai, io comunque ne approfitto del mic per salutarvi tutti con cordialità, vi auguro una buona serata, buona carica di tutto a tutto il gruppo, dai, avanti doppio room, se sei rientrato, se no Giulio. Allora, mi prendo io. Ciao Franco, grazie per la chiacchierata, dai. Alle prossime, quando coincide. Così facciamo un'altra chiacchieratina, dai. Stasera è stata una lunga serata, piacevole anche, tra l'altro. Siamo rimasti e ci siamo fatti compagnia l'uno con l'altro. Va bene, di nuovo ciao Franco, alle prossime. Avanti Gianni, con prefetta. Ehi, ciao Fra, mi hai sentito? Ci aggiorniamo all'improvviso come sempre. Buona serata e buone cose. E vabbè, dai. Adesso... adesso mi sono calmato un attimo, mi stavo per partire l'embolo e qui seduto da Rubacconi, però vabbè, adesso per il momento l'allarme è rientrato, dai, adesso siamo un attimino più calmi, perché sennò guai, e fermo un casino, va bene così, dai, e niente, dai, rilanciate e giro avanti. Ok, già, certo. Ah, vabbè, con la stessa pazienza, tanto per il telefono, di nuovo il telefono, e va bene così. Evidentemente ci voleva solo un po' di pazienza. Ma ogni tanto ti succede questo particolare, questo guaio che ti è successo prima, oppure c'è stato qualche errore, oppure non so, hai tolto la scheda, perché quando togli la scheda poi va praticamente resettato, tipo l'orario, tipo il coso, come si dice, anche l'ora, non solo l'ora, ma tante altre funzioni che del telefono stesso. Per quel motivo ti si era bloccato? No, non per quello. Come ti ho detto, stavo provando a smanettarci per cercare di risolvere questa cosa degli aggiornamenti, capito? Quindi, insomma, l'avevo collegato al computer, stavo cercando di aggiornarlo in qualche maniera, dai. E poi a un certo punto mi si è impallato il computer, mi si è bloccato il computer e il bloccaggio del computer mi ha incasinato il telefono, capito? Ah, ho capito, sì, ho capito. E vabbè, succede. E tanto ci siamo sempre poi per il resto. Adesso cose di poco conto, dai, sono cose che ti fanno sì invecchiare, però in un certo momento, purtroppo, quando succede, con la stessa calma, se lo metti a posto e ciccia, come è fatto, insomma, ecco. Va bene così, ciao, insomma, le 8 e 4 minuti, le 8 e 4 minuti, fra un po' si cena, a me mi sono dimenticato perché di controllare la lampadina del cielo. La lampadina della luce della scala, dell'ingresso, che quando accendiamo dall'interno incomincia a lampeggiare continuamente, non si accende, cioè si accende e si spegne continuamente, ma in una velocità supersonica. E io dovevo, forse c'era la lampadina che è mezzo svitata, no? Dovevo mettere la scaletta per vedere su via il globo e avvisare bene la lampadina, che probabilmente è quello, e invece me ne sono dimenticato, qua ci picchiamo. Vabbè, pazienza, vuol dire lo farò domani, anche per stanotte al buio, fuori nel pianerotto, all'esterno, vai. Ho capito, vabbè, già si fa in fretta a fare quello lì, una scaletta, una gadria e tutto a posto, roba facile, dai, vediamo se Gianni è rientrato. Gianni, ci sei? Cosa lunga, quindi o si è spostato del tutto o è arrivata una bassa. Tra un passaggio e l'altro non si è voluto trattenere di più di tanto, perché magari il cane aveva necessità di uscire, sarà per quello, perché lui a quest'ora di solito porta il cane a passeggio per fare le sue cose, e va bene così. E vabbè, là, ancora qualche passaggino così e poi scendo giù per la cena. Strano che ancora non mi abbia chiamato mia moglie, forse ancora non è pronto, boh, ma sto aspettando la chiamata, un momento all'altro. No, che ci sono, non ho portato il cane. È che squilla il telefono, mandano messaggi e sto sempre alzandomi perché ho messo il telefono a caricare ed è lontano dal letto dove sono sdraiato, tra l'altro. E praticamente quando vado a rispondere mi chiamate, sembra fatto apposta. Quindi niente, stavo rispondendo al telefono. Ah, io che ho capito già. Va bene, dai, avanti, non per te. Ehi, succede, ti chiama uno dalla bacia e ti chiama uno dall'altra, tira e molla, capito? Succede, sono scene già viste, quindi immagino. Oh, yeah. Va bene, lì da voi il segnale è sempre, il mio segnale è sempre quello, il solito, insomma sempre, sempre stabile, giusto? Sì, 9.5, sì, va bene, quello, va benissimo. Te l'ho spiegato, se non c'hai gli ostacoli, se è stata già tarata l'antenna e non hai gli ostacoli, è uguale a come l'hanno tarata, almeno che tu abbia un muro, una cosa che faccia ostacolo, allora, essendo sul tetto non penso che ostacoli ne abbia. No, assolutamente no, è libera, libera e bella, è proprio totalmente libera a 360 gradi. Libera nei capelli e bella nella forfora. Bella questa battuta è bella. E vabbè, però c'è il tetto, c'è da te oppure sul terrazzo, dove sei già? E lì, dal lato della stazione lì. No, praticamente è un terrazzo, cioè è un tetto terrazzo, tutto catramato, poi circondato da un parapetto dove ci sono tutte le antenne della televisione e poi c'è praticamente la tromba delle scale che finisce su, no? Con la tettoia piccolina, con la porta che ti porta su nel terrazzo e praticamente l'antenna è fissata ad un tubo e le staffe sono fissate al muro della casettina della tromba delle scale, diciamo, dai, quella che ti porta sul terrazzo. E il tubo sarà alto 3 metri, 4 metri, boh, insomma, non l'ho misurato per essere sincero, comunque l'antenna l'ho messa in punta ed è assolutamente libera, quindi immaginati, le antenne TV sono proprio attaccate al parapetto e l'antenna mia le sovrasta, è abbastanza alta, dai. Deve superare le antenne TV, di almeno mezzo metro. A voglia Gianni, abbondante, abbondante. Mezzo metro è anche poco, nella norma è un quarto d'onda, già, 2,75 metri, 3 metri ancora a metro, nella norma è un quarto d'onda che deve essere superiore in altezza alle antenne TV, però visto considerato che c'era anche distante, dal parapetto alla parte centrale della casa, in pratica del terrazzo, e dunque già agevolato anche per quello. Va bene, avanti l'ombre effetto. Sì, sì, da quel punto di vista la differenza è parecchia, dai. Quindi loro sono in basso e la mia antenna è abbastanza in alto, quindi non ho problemi. Poi vabbè, l'apparecchio è quello che è, la potenza è la sua, cioè penso. Poi anche qua non tutto nella norma, tutto ok, tutto pulito e lindo, quindi non abbiamo problemi di quel genere. Mezzugai. Ok. Infatti meglio così. Stavo dicendo Gianni, io sempre Santiago 5 ti arrivo, Gianni doppio su, sempre Santiago 5 ti arrivo. Non ho gli occhiali. Mi sembra 4 adesso. allora se Santiago 4 già va bene, dai. Se Santiago 4 già va bene, già non è un problema, dai. Stringi gli occhi, così dai un'occhiatina, stringi gli occhi così non fai altro che ovviare agli occhiali. Vai. Io provo, dai, così ti faccio contento. Bravo, così, grazie, se te lo sarò per un dormo, perché se il segnale è basso non dormo, sarò, adesso mi stai dicendo, adesso siamo 5, adesso siamo 4, cazzettina, mi stai facendo il malumore, vai Gianni. 9.30, sì. Ascolta, quell'antenna che tu hai autocostruito fischia col vento. No, è un coso, c'è una canna fessa, oscilla e basta, oscilla molto, quello sì, oscilla moltissimo, non poco, moltissimo, però non si spezza, perché l'ho riportata dove ci sono le giunzioni del telescopico, diciamo così, no? Dei vari elementi, l'ho riportata con un pezzo di tubo da elettricisti, di quel tubo rigido da impianti del laboratorio, no? sono riportate con quello. E dunque ho visto che sia quest'anno che l'anno scorso che del vento ne ha fatto abbastanza, non è successo niente, va bene. No, te l'ho chiesto perché io, essendo pescatore, quando do la frustata con la canna da pesca fa il fischio, capito? Per quello te lo sto dicendo, perché fischiando io dovendo la mettere sopra il tetto e fischia, mi rompono le scatole per il condominio, capito? Per quello te l'ho detto. Perché solitamente la canna quando tu lanci lo fa, quando è la frustata per lanciare, fa la fischiata, capito? Vabbè, ma così la stai usando tipo frusta, è logico che fischia, poi è diverso così. No, poi questa qui è una canna da fiume, non è una canna proprio per il mare, no, è una canna da fiume questa, o Gianni. Dunque, sai, di quelle canne che non c'è niente, non c'è nessun collare di metallo, non c'è niente, è proprio solo esclusivamente la canna e basta. Va benissimo già, oggi. Oscilla, sì, questo è senz'altro, però ripeto, l'ho riportata nei punti nevralgici dove si potrebbe rompere, e fino adesso ho visto che sta reggendo, speriamo che continui a reggere. Vai Gianni Lubrefetta. Bene, Meda. Dai ragazzi, io colgo l'occasione di aprire il microfono e niente, io stacco, faccio il QRT, dai, e niente, vi lascio, buon proseguimento di serata, buona carica e buon tutto. Grazie della conversazione, grazie a Gianni, a Franco, Eugenio e tutta la banda del canale 10, e grazie a te, anche a te Giulio. E niente, un saluto a tutti quanti, anche a quelli in ascolto sul 10, ci risentiamo appena possibile. Ok, buona serata e saluti dalla stazione qua al centro storico Gianni Brofetta, ok? Ciao, buona serata a tutti. Riprendo io, ciao Gianni, buona continuazione di serata, buon carica quando la fai, grazie per le quattro chiacchiere e ci sentiamo domani, avanti Giulio. Ok, ciao Gianni, grazie a te della chiacchierata, ci sentiamo domani eventualmente, stasera abbiamo dialogato abbastanza, dalle 4:30 fino a quest'ora, già, sempre frequente, va benissimo così, dai, e anch'io lo seguo a ruota Gianni perché mi hanno già chiamato per me. Adesso è appena salita mia figlia e mi ha chiamato, se hai fame scendi. E beh certo, a quest'ora scendiamo per la cena. Ciao Gianni, a domani, dai, ci sentiamo. Se sei libero fatti sentire, così almeno cambiamo ancora altre quattro chiacchiere. Alla prossima Gianni, ascolta fino a lì, poi chiudo, vai. E dai, ciao Giulio, ciao a tutti gli altri amici in ascolto. Buona carica e buon proseguimento di serata, dai, a domani.